tantissimo. Buonasera. Normalmente allora, un set costa 14 euro. Vabbè, uno non ce l'ha, ma l'altro sì. Cos'è che dice? Che il microfono, quello lì non c'è. Okay. Non saranno i dadi più belli nel mondo, però. Almeno si leggono, vorrei con che cazzo ho comprato. Allora, allora. Facciamo che gli dico anche di attivare la registrazione. Ok, ora ci siamo. Benvenuti al quarto episodio di Coloni live sulla pagina Facebook di Titans and Dragons. Sarebbe bello se mi cagasse il mio coso. Allora, non smetti di farla vittima. Allora, e questo è il quarto episodio di Coloni, come dicevamo, in cui giochiamo a Dungeons and Dragons versione 5. Direi di far partire la sigla, che è la scelta catta, quindi se fa cagare, non lamentatevi. Dai, su. Allora. Cioè, c'è un video introduttivo, catta, che cazzo è sta merda? Sono i bei vecchi videoclip. Di... Allora mettevamo una sigla di Rovazzi, che ci metteva mezz'ora per arrivare alla canzone. Ah, posso farlo, contento. Cazzo! Poco sì. Non ho guardato niente io. È un incantesimo, sì. Non l'ho visto. Abbiamo anche un aumento di carattere. Appunto, quelle cose io non ho visto. Otto per me. Sì, già. Posso venire? Ma come è possibile? 8 minuti fa non eravamo neanche in diretta. Mi ero raccomandato con Jimmy sabato. Mi raccomando, stai che si mette lì. Perché cosa è successo? Così hai fatto qualcosa? Catta, facci sognare! Il cugino che è appena tornato dall'America. C'è un secco del cazzo, però non c'è oggi. Molto, molto Giulio, secco. Giulio, bellissimo grazie articolo. Per il benvenuto. Madonna, fatta da Dio. Appena riesco a connettermi, risponde con me. Vabbè, la sigla posso cominciare. Vabbè, aspetta l'inizio del ritornello. Mamma mia, ancora la c'è per la puntata di oggi è questa sigla. Va bene, allora, qualcuno di voi dovrà fare il riassunto. So che di solito mandiamo di piace. Cosa? No, falso! Lo passa alla sto giro. Ma perché il bardo non fa mai il riassunto? No, infatti lo passa alla oggi. Puoi tagliare come fa Virgil Radio quando inizia la storia. Quindi adesso tu hai i miei amici che ho bisogno e scusate. Ma c'è anche Fabio nel commento, erotica versina, salutaci in diretta. Devi salutare tu. Allora, salutiamo Fabbro, lo zio. Ciao zio. E ti aspettiamo numeroso a Marina di Ravenna questo sabato al Toto. E salutiamo i miei cugini, uno dei quali è tornato dall'America, l'altro e quindi fa perdere l'importanza l'altra. E questo è il quarto episodio di Coloni e si chiama Vele Nere. Giochiamo a Dungeons and Dragons, questo l'abbiamo detto. Noi siamo Tycoons and Dragons e ci potete seguire su Facebook alla pagina Tycoons and Dragons, ma anche su quella di RipGDR, sul blog che è ripgdr.wordpress.com, in cui stiamo riuscendo finalmente a essere in pari con gli articoli, anzi per il momento siamo in pari, e sul podcast che è quello di RipGDR. Con me da Bologna, da Giacomo Vecchi, ci sono Giulio Bosi, che è tornato fra noi, Luca Lazzarini, Enrico Cattabriga. E da Marsiglia abbiamo Edoardo Salladini, non abbiamo con noi Stefano Gamberoni detto Sceo, E appunto Edoardo Saladini oggi ci farà il riassunto della scorsa puntata. Salutare anche Giulia. Salutiamo anche Giulia. Tutte le Giulie che possono. La ragazza di Fabio. Giulia. Oh mia cara. Se il mio mouse andasse, magari potrei mettere. Ops. E vedere la nostra diretta. Invece vedo Salga. No, dall'inizio lo vediamo. La tua cugina si sente un po' trascurata dal fatto che non l'hai nominata. L'ho nominata, ha detto che ha perso importanza rispetto al ritorno del Goloso. Ciao Goloso. Quindi ha perso così importanza che io giustamente non viene nominato. Va bene, a parte aver salutato metà famiglia e Giulio che sta salutando. E anche il cagnaccio. Sì, salutiamo il cagnaccio. E Salla, quando vuoi, o meglio, anzi adesso, quando voglio io, puoi partire con il riassunto del terzo episodio. Questa è la punizione per avergli dato contro la volta scorsa? No, perché affidarci all'AS per il riassunto mi sembra impossibile. Giulio non c'era, il cat l'ha già fatto. Non sente? Sì che sente. Ma no! Dai, che ah, se no lo faccio io, rega, però cioè, no, la cosa ridicola è che io devo fare il riassunto alle puntate che master. Lo faccio io, Benzo, faccio io. Devo fare sempre tutto io, però. È il bar. Sì, è una questione. Salla che si lamenta, è una cosa nuova. Che è pure scappato l'altra volta. Devo fare tutto io. Allora, io mi ricordo bene che siamo tre coloni e due ospiti a sorpresa. L'ultimo episodio. Sì, è corretto. E no, i quattro pescatori? Era già la seconda che facevano. Sì, era già la seconda, ma non ho ancora capito che personaggi sono, a parte l'Alfin. Quindi è Sceo che non hai capito che cazzo è. Beh, anche perché l'ha cambiato. Ma anche Sceo non ha capito che personaggio è. Salutiamo Sceo. Vabbè, devo cominciare dall'inizio, no? Basta che prendi in breve cosa avete fatto la scorsa volta, se ti ricordi. Ma no, intanto siamo tutti coloni e stiamo andando verso il nord per una terra che non mi ricordo come si chiama. Sarvarn. Potrei non riuscire a pronunciarlo di nuovo. Sarvarn, non è difficile. Dato questo, siamo tutti in una bellissima nave. In cui uno dei protagonisti è trattato con un certo riguardo come merita, mentre gli altri sono degli sgherri e sguatteri del capitano, lo sono diventati per gli atti di vandalismo palesi che hanno fatto nei confronti di un povero animale vecchio e anziano detto Otaria. Preso un'imbarcata. Quindi ora cercano di redimersi agli occhi del capitano. La prima pausa, la prima sosta nella prima isola per cercare di diventare figli. Diventare figli? Ma tu lo sai già. Che senso ha? Ha deciso di sconfiggere il demone, no, la fanciulla, no. Il demone fanciulla. Ha deciso di fare luce sul mistero della fanciulla del promontorio. E qua c'eravamo, qua in tutta la sessione. Soprattutto Giulio ha fatto luce. Sì, sì. Io ho fatto luce. Quindi la morale della favola è che abbiamo trovato una bambina viziata che non sapeva dove fosse e ci ha indicato il lupo cattivo in una grotta vicino. Noi da bravi all'occhi ci siamo cascati. Giulio ha cominciato a lamentarsi perché è assente e quindi interpretato magistralmente. Magistralmente, la parola corretta. È stato molto divertente. Per cui il lamentoso non è entrato nella grotta, siamo entrati solo noi, abbiamo visto... E com'è che vi aveva definiti, se non ricordo male? Ciechi. E sordi. Un po' lo siete. È un po' offensivo, però vabbè. Però anche un soprattutto po' per una persona anziana, per uno è cieco, anziana. Non c'è più rispetto per i giovani, per i giovani anziani. Vorrei portare l'attenzione del pubblico l'ultimo status di Jack. Soldi del Monopoli e borse Gucci venduti in spiaggia a 15 euro sono cose autentiche rispetto a certa gente. Questa è proprio una poesia, ben pensanti. Sono dei livelli. Sta anche commentando questa cosa. Salutiamo Jacopo Romano. Ah, io vorrei fare un personaggio nella prossima campagna, quale che sia, che si chiama il giustiziere destrutturato. No, che capa. Vabbè, Salla, finisci il suo riassunto, dai. Sei andato fuori. Grotta, demone. Cave ha preso in mano la situazione, visto che tutti erano impanicati. Cosa facciamo? Non facciamo a sconfiggere. È un riassunto un po' di parte, questo devo dire. Non me la ricordo. Io me lo ricordo. Tu non c'eri, non ti vuoi ricordare, giuro. Ho ascoltato tutto. Sì, ma il tuo personaggio era fuori, quindi devi interpretare bene il tuo personaggio che era fuori. Non lo sento. Abbiamo lottato male. Tra cui un misterioso teschio d'oro. Bravo, Digno. Si vede che hai studiato. Inspiration, no, scherzo. Siamo tornati a Lokan e tutti sono fatti i cazzi loro, tranne Katta, che ha cominciato a fare il figo, tipo, ehi, sai cosa abbiamo fatto? Vabbè, e quindi la morale è che siamo stati derisi più o meno da tutti. No. Nave di nuovo. No, sì, seconda derisi. Fermata, isola Eric. Eric. GG. Quindi l'isola di Laz. Sì. Siamo scesi nell'isola e allora, mentre Cave era solito stanco e non faceva niente, gli altri hanno detto, questa è la volta buona, ci dobbiamo redimere agli occhi del capitano, dobbiamo fare i figli questa volta. Che poi voi, però in realtà, il capitano avete fatto solo che dei favori, però lui pensa che voi abbiate pisciato nella vasca della sua foca. Voi. E detto così non funziona, voi. Non suona bene. Non dobbiamo redimere, dobbiamo uccidere chi... Vabbè, tu hai detto solo sordi ciechi, non sento, non parlo, che avrei detto. Vabbè, e quindi è arrivata a Lokanda un tizio dicendo, per favore, nessuno mi vuole aiutare perché sapevano tutti la ragazza della fanciulla e quindi tutti sapevano che era quella una puttanata e pensavo che sia anche questa una puttanata. Ma ci avete pensato? L'abbiamo seguito, siamo andati in spiaggia, lui ha detto che c'è una sorta di pifferaio magico a forma di pesce che prende i bambini nella spiaggia e abbiamo trovato i probabili responsabili per pura discriminazione razziale, visto che c'era della gente, umani, tizi mezzi pesce, sì, sono loro. È vero, se ti andate, magari non c'entravano un cazzo. Esatto. E quindi li abbiamo attaccati, non e sai, detto, non vediamo se sono così stupidi a seguirci all'interno della nostra tana. E noi sì, siamo così stupidi. O eroici, o eroici. Gran lotta. Stavamo stravincendo, il master ha avuto paura e ha detto no, aspetta, chiamiamo il rinforzo. Troppi punti esperienza. Esatto. E quindi sono arrivati quelli con cui abbiamo dimezzato i punti esperienza, ma non dimezzeremo il loot. No, anche perché sono morti. Esatto. Più loot per noi. Sono morti tutti, quei quattro che sarete. Però non abbiamo ucciso noi, quindi meno punti esperienza. Vabbè, ok. E basta, e mi sa che abbiamo finito. Sì, bravo, ben detto. Sì, siete sull'isola di Eric, appunto in questa grotta. Tu, Giulio, non sei lì con loro in questo momento, okay. Sei nel porto a fare quello che ti pare. Okay. Allora, un paio di precisazioni prima di passare all'azione. Una è... due tecniche. Una, per Salla, quando avevi fatto il test Detect Magic per vedere che gli oggetti o se qualcuno era magico, avevi visto che c'erano due oggetti magici, uno sul personaggio di Sheo, che si chiama Sirron, e uno su Eric, ovvero il personaggio di Laz. Ora, quello del personaggio di Laz come scuola è divinazione, ma questo forse l'avevamo già più o meno capito, mentre invece quello di Sirron è abbiamo ricordato chi è? Sirron è quello di Sheo, il monaco, dice di essere un monaco. Sheo? Sì. C'è un oggetto, c'è un oggetto Sheo. Che ha della scuola abiorazione. L'altra tecnica è sulla discussione che avevamo avuto l'altra volta, cioè dell'azione bonus, lo scatto, eccetera. Se non sbaglio, l'altra volta secondo me abbiamo interpretato male, perché uno può usare la sua azione come movimento, ma questo non gli toglie l'azione bonus. Quindi in realtà uno può fare due scatti, cioè deve fare due movimenti e poi nascondersi come azione bonus. Okay. Quindi in realtà non è come abbiamo interpretato l'altra volta, o meglio come mi avete fatto interpretare l'altra volta, ma ho giustamente accettato io, ma si può fare anche l'altra cosa. E per il nascondersi invece, lì vediamo da momento a momento, la mia idea di base è che se c'è... Cosa sono dei commenti di Yak? Sì, l'ho detto bene. Adesso li controllo e li modero. Adesso li modero. Il censuro. Dipende dal territorio. Dipende dal territorio. In linea di massima, se c'è un posto, per esempio, che ne so, c'è una catasta di barili da cui tu puoi andare da una parte e girare dall'altra, allora ci può stare il nascondersi, perché tu potresti sbucare dall'altra parte. E magari una volta, ecco, poi magari dopo capiscono il gioco. Se però è una roba che si vede, vai dietro l'angolo e basta, non è che ti nascondi, però hai comunque copertura. Ok. Cioè, in linea di massima sarà questo. Poi vediamo, è chiaro, magari ti nascondi 5 volte in un combattimento, poi capiscono, insomma, quello lo interpretiamo da territorio a territorio, sì, sì, da sì, volta a volta. Massimo mi nascondo dietro. Va bene, l'altra cosa in più, tu Giulio, l'ultima volta non sei entrato nella grotta, la cosa che dicevi che ti era interdetta, sì, era per te vero, cioè tu hai sentito una forza divina che ti impediva l'ingresso. Mi sembra un teschio. Ecco, quando è uscito tu hai guardato il teschio perché ti interessava, non sei sicuro, non sei riuscito a capire, ma sei più propenso a pensare che no, non c'entrasse col teschio in realtà. E non so o c'è qualcosa che loro non hanno visto all'interno, o c'è qualcosa che non hanno visto all'interno, oppure o non sei riuscito a capire bene, eccetera. Perché hanno parlato alla bambina, dovevano portarla. E infatti tu sei rimasto molto deluso. Fra parentesi, chi di voi tiene il teschio? Cioè, l'aveva lui. L'ha preso Giulio. Giulio l'ha preso, ma voi l'avete minacciato, per cui non so se gliel'avete lasciato. Me l'avevate lasciato. L'avevano lasciato, però... No, non l'avevano lasciato, tu avete detto, Giulio lo prende. Giulio lo prende, però in realtà, l'atto pratico, se ne volete prendere, glielo prendeva. In caso lo prendo e dico che il resto del tesoro è vostro. Beh, anche... È quello che ha detto! No, no, ha detto di... l'altra volta hai detto, Giulio, che prendevi il tesoro, le monete d'oro non ti interessavano, ma... Ah, anche se non volevi, a malevoglia l'avresti comunque prese per il bene degli altri. No, no, in quanto sordi e ciechi. Io prendo il teschio, ma tutte le monete sono vostre. Grazie. Va bene. Ora voi siete nella caverna dei Merrow. Visto che io non ci sono, mi sento 10 minuti. Devo andare in piazza maggiore. Cos'è uscito? No, no, devo andare a prendere il biglietto. Ah, ok. Cazzo dici di andare a prendere il concerto? Niente al concerto. Quello che nessuno gli ha voluto comprare. Sei autovenduto. Oh mio Dio. Va bene, Las, per il momento scala di qua. Tanto non ci sono, ci metto 3 secondi, è piazza maggiore. Va bene, si vede anche questo oggi su Tycoons and Dragons TV. Possiamo mettergli una webcam così vediamo dove va. Esatto, vi seguo. Se vai su Skype ti vediamo. No, Skype. Vi seguo io a Facebook. Modera e commenti. Ok, c'è una bisogna. Jacopo e Jacopo hanno commentato. Giulio ha fatto luce. Ah, il lamentoso Guro Versi. E luce fu. E luce fu. Ah, e luce fu. E luce fu. Niente, è andata in bacca. Il lamentoso. Cos'è il lamentoso? Giulio ha fatto luce. Ma quante volte l'ho scritto? Ha scritto Jack. Si rega, però zio Porcone iniziate. Attacca briga. Il teschio. Ah. Hanno un teschi. Ah, no, colpo di scena. Va bene. Colpo allora, questi sono i due Jacopo, uno con la I e uno con la J. Scegliete voi quale. Allora, voi siete nella caverna dei Merrow. Okay. Proseguite nell'ispezione della caverna. La piscina dove siete è praticamente un bagno di sangue e pescioni che galleggiano semimorti. Ok, come semimorto. Esco dall'acqua e inizio la caverna. Io esploro i corpi. Mi sta chiamando, mi sa Yak. Pronto? Yak, però giochi o stai in diretta? Ehi. Ma no, non dire perché no, mi sta chiamando anche Fabbro, raga, posso avere solo una chiamata a volta. Mi ha fatto chiamare un È vero? Mettilo vicino al microfono. Sta ridendo e basta, avete visto il microfono? Dove avete visto il teschio? Allora, mentre questo sottofondo di una persona che ride a caso, proseguiamo. Ho buttato giù. Ciao Yaki. Sì, perché si è accorto che ce l'hai sua madre si è accorto di aver rubato il cellulare. No, è il telefono di casa. Pronto, sei in diretta? Cosa vuol dire per le nostre persone? Non sei più in diretta, ciao Fabbro. Va bene, allora. E torniamo a. Sei in diretta? richiama, ma ce la possiamo fare. Pronto? Oh, sei nelle prime 10 telefonate. Nelle prime 10 telefonate hai vinto un dado da 20. No, però voglio dire, cioè, cercate di interagire di più con il pubblico, cioè rispondete ai commenti. Abbiamo risposto in diretta. vogliamo un commento sul su Bosi che va in casa. No, in questo momento sei occupato il cellulare, quindi non posso vederlo. Ormai è attualità questa. Giulio sta andando a prendere un biglietto, raga, è tutto normale. Anche per gli amici del podcast, non vi preoccupate. Giulio prenderà il biglietto e tornerà qua appena possibile. Se non ha trovato qualcuno cui venderlo nel 300. Esatto, se siete ancora interessati a comprare un biglietto da Giulio, il prezzo è salito a 85 euro. Ok, la stima. Se non siamo di guardare TV e fare la chiamata. Cosa ho vinto? Persone a caso che ridono, va bene. Torniamo a noi. E quindi cosa fate? Esplorate la grotta? Mi addentro nell'antro. Nei corpi non c'è niente. Che schifo. Loro sono armati, non mi ricordo, con qualcosa di inutile. Tipo con avevano degli arpioni che però ve li hanno lanciati fuori. E no, loro vi attaccavano in effetti con lunghi e morsi. Quindi sì, non sono particolarmente armati. Però avete visto, tu là soprattutto, che ti eri infiltrato un po' verso la fine della grotta, che la grotta prosegue poi oltre. Ecco. Avanti, mi appunto. Andiamo avanti. Allora, andate avanti. Praticamente, più avanti, vedete, cominciate a vedere sul terreno, in queste pozze, delle ossa. Vi sembrano osse probabilmente di esseri umani. Alcune anche piccole, quindi forse bambini o cose del genere. E sentite delle risate di sottofondo che, è molto che mi preoccupa un casino, ma potrebbe essere. Sono giusto. Le razze in fondo alla grotta? No. Ah, ok. In realtà sentite tipo dei lamenti verso esatto il fondo. Se proseguite, proseguiamo. A un certo punto vedete delle sorte di gabbie. Dentro queste gabbie, fatte in modo molto rudimentale, di legno. Ma con dei pezzi, sì, un po' di legno, un po' dei pezzi tipo di arpioni o di ferro, eccetera. Ci sono delle persone che quando vi vedono dicono: aiutateci, vi prego, aiutateci. Ah, strago la spada di aiuto io. Non soffrirete più. Che cessi questa follia. E spacco la gabbia. Spacchi la gabbia, va bene. Liberate i prigionieri. Ah no, è semplicemente, mi sa che ha messo la mia. Sono loro che sentono noi. Chiamata vocale persa. Va bene, Fabbro, ti saluto. Buona serata. Ciao. Interagiamo con i commenti. Ciao. Ci vuole un social media manager. Ci vuole un social media manager, sì, è vero. Allora. Lo fa Giulio, scusa, è già il corso da in mano. Ma infatti pensavo che 10 minuti, va bene, fa lo stesso. E va bene, allora adesso vediamo il coso. Sì, allora, intanto mi fate un perception. Decente, se possibile. Non è possibile. 19. No. 17. 19. Allora, in un angolo trovate alcune borse sudice, dei sacchetti sudici, con dentro un totale di 500. Sta vedendo Jurassic Ark 3, ma meglio i dinosaurini di qua. Oddio, trovate 500 monete d'argento. Tesoriera, scrivo. Ciao. Che cazzo è? Yak. Ma perché? Che problema c'ha? Cioè, ma io, per carità, noi saremo anche degli sfigati perché giochiamo in diretta, eccetera. Però anche chiamare in diretta e ridere a caso non è male. 52 commenti. Bravi ragazzi, vi vogliamo tanto bene. Stavo vedendo Jurassic Ark 3, ma meglio di Giuseppe di qua. Oh, se qualcuno vuole un biglietto per i Depeche Mode per il concerto di domani alle 21 al Dallara, 85 euro. Giulio, quanto vuoi per i Deleghe Mode? Io sto interagendo, Depeche. Va bene. Ma poi mi sono detto no, vediamo i dinosauri. Bravo, poi c'è uno con la maglietta blu e un fallatiro più piccolo che è Sara praticamente, no? Sì, bravo, Jack. Ma scusa, no, più piccolo. Detective Conan. È perché lo schermo è quello che è, quindi dobbiamo rispettare le dimensioni reali delle persone. Ma stanno nell'angolo e vedrai sotto, sembra però lui in una posizione di superiorità. Perché in effetti lo è. Perché se l'è guadagnata col sudore della fronte, Jack. Ah, ecco, è proprio il master, Veramente? No, lui dice una vita reale. Bella, Jack. Ciao, Jack. Grazie per il tuo contributo. Grazie. Grazie. Ciao, un abbraccio, bello. Ciao. Ciao. Va bene, ragazzi. Allora, avete trovato 500 monete d'argento. Stop alle telefonate. Vai a fare il bagno. Però possiamo farne un concorso. Va bene, allora, sì, sapete, no? Allora, praticamente nel marketing, soprattutto in quello web, c'è l'idea che tu devi portare sui tuoi canali del traffico tipo certificato, comunque targetizzato, cioè che a cui interessi quello che stai proponendo. Sì. Ecco, questo è l'esatto esempio di cosa non bisogna fare. Va bene. Noi abbiamo portato il traffico. Noi abbiamo portato il traffico, ma assolutamente non qualificato. Molto traffico, questo è vero. Va bene. E mentre siete in attesa, no scherzo, avete trovato queste 500 monete d'argento. Quelli che invece avete liberato sono per lo più ci sono dei bambini, delle donne e qualche anziano. E uno di loro sembra messo molto male, cioè sembra proprio allo stremo. Si avvicina a voi e vi dice: grazie per averci salvato. La nostra comunità non è molto ricca, ma lasciate che vi ricompensi nell'unico modo in cui posso ricompensarvi. Si spoglia. Esatto. No. È cattivo. Si apre la camicia. Oh, cattivo. Si apre la camicia e vedete che al collo ha un medaglione dorato con, cioè, una pietra al centro di colore vermiglio che sembra quasi pulsare, e lui lo prende e lo dà a voi. Tenetelo, tanto io ormai non sono vecchio, ormai non sono più in grado di difenderlo, e sarà sicuramente meglio nelle vostre mani. E soprattutto adesso che lui sta tornando. Grazie vecchio uomo, la tua generosità ti fa onore. E gli appoggio una mano sulla spalla e imponendo le mani gli curo 2 PF per farlo stare un po' meglio. Ah, mi sento un po' meglio, ma sono molto stanco in ogni caso. Vai a riposare, siete fuori pericolo ormai. Attenti però a questo medaglione. Perché? Non ripeto le cose, voi tipo l'avete ignorato prima. Raccontaci di che medaglione si tratta. Da 4 siamo rimasti in 2, è andato via anche l'altro. Sì. E questo è il medaglione del tremendo, il tremendo pirata, Ray Crane. Non sappiamo già chi va. Catta. Conoscenze pirati. No. tu hai già sentito nominare questo, perché santo so che se te lo faccio tirare tiri un 2 e cosa vabbè quelli dei pirati non se ne resistono neanche i pirati. Re Rai Y Crane con la K Crane e Ray Crane è una figura quasi mitologica per i pirati. È conosciuto come il Tremendo, in effetti, e era un pirata leggendario che è proprio un razziatore incredibile, cioè conosciuto per la sua cioè proprio cattiveria e anche perché aveva messo insieme un bottino pazzesco, enorme, cioè era proprio il terrore di ogni villaggio, di ogni porto, un giro per il mare della lanterna. E però è un pirata che è vissuto, secondo le leggende, centinaia di anni fa, quindi sembra difficile che possa essere tornato. E ci sono ovviamente le leggende che dicono cose sul fatto che lui viaggi ancora su una nave fantasma o che la sua giurma, eccetera, però ti sembra un po' strano. Superstizioni. Esatto. Questo medaglione come è fatto, che non ho capito. Allora, praticamente è un medaglione la cui collana è tutta dorata, cioè fatta praticamente dischi dorati, e al centro ha tipo una pietra di colore vermiglio, quindi tipo rosso, che praticamente una pietra tipo diamante, tipo una pietra preziosa. Preziosa, sì, preziosa. Di colore vermiglio, che la cui luce fa luce, praticamente fa luce un po' tenue, però sembra quasi pulsare. Oh. E lui ve la dà, dice, nella mia comunità non è in grado di pagarmi in modo diverso, lui vi dà questo. Lui dice di chiamarsi Rod Corbin. Corbin, come vanno le lezioni in Gran Bretagna? Perché c'è un politico che si chiama Corbin. Il segretario dei Labour. Ah, come siete... Cazzo bene, dei inglesi. Come siete venuti in possesso Corbin di... proprio? Sì, mi dispiace. Va, la si chiama Thatcher. Come siete venuti in possesso di questa gemma? È stato il mio bistris nonno. Cazzo, non so. Vai. Va bene. Che la. No, insomma. Beh, oh, la polizia finalmente. Non volevo un po' che è un po' che non sentivamo. Le pizze sono le pizze. Salve, le offerte sono salite a 45 euro per i Depeche Mode. Diamo il posto a Giulio. Allora, lui dice che praticamente un suo antenato aveva fregato, era riuscito a fregare questo pirata. No, non era molto sveglio allora, io non porterei il suo medaglione. E era riuscito a fregarlo. Emanuele Marchesini, ti prego partecipa pure tu alle chiamate, no? Poi, cioè, non ha mica tempo di cagare. Esatto, cioè, se cagasse magari non tratto mai sui prezzi, 99 e 99. Mattia Bignami, guarda qua che spettacolo. Francesco Arcidacono, Jacopo Fabretti, la pulla. E, mentre abbiamo la porta aperta e quindi ci esponiamo eventuali blitz. Esatto, denunce. No, devi. Esatto. Perfetto. Bentornato Giulio, in effetti non è cambiato molto per te. E questo Crane... Le chiamate in marzo. Esatto, anche perché metà del tempo l'abbiamo perso in chiamate con gente che rideva. Ho seguito. Ok. Eccoli Depeche. Se li volete... Ah, li hai pure pubblicizzati qui, in diretta, vedi? A soli 99,99. Ma ce n'è uno, perché anche questa trasmissione potrebbe contenere gag su Giulio. tracce di gag su Giulio. Non rispondo più alle vostre. Okay. A questo punto sono entrato. Continua a seguire, vediamo cosa succede. Va bene. Allora, il Crane, secondo lui, appunto, il suo antenato a quanto pare l'aveva fregato. E non è ben chiaro come, cioè non riesce bene a spiegarvelo, però dice che praticamente gli ha affidato questo medaglione da custodire e se lo passano da generazione in generazione. Però lui adesso no, non è più in grado, cioè è vecchio, sta per morire, non è più in grado di sostenerle. E soprattutto, secondo lui, è il medaglione praticamente è tornato a fare a riattivarsi, il che significa che Crane sta tornando. Cioè, secondo lui, c'è una... Secondo lui... E lui fa, sì, perché i suoi... La sua ciurma sarà in cerca di lui, e quindi prima o poi tornerà, ed è meglio nelle vostre mani. Ah, quindi vuoi smerzare il pericolo noi? No, beh, è un medaglione di grande valore. Sento io che non sono lì. L'unica cosa, sordo, cieco. Dovesse mai trovarvi, Crane, ricordatevi solo una cosa, che è quella che mi ha detto mio padre e suo nonno prima, e anche suo padre, il padre di mio nonno, e il nonno di mio padre, e il padre, e lo zio, perché... Parli. Ripigliati, insomma. Mi disse che la maledizione si spezza solo riconsegnando a Crane questo medaglione. Non glielo dare. Dovesse lui trovarvi. Che maledizione. Salutiamo Fabbro, grazie. Ciao, Fabbro. Vabbè, bella rega, noi salutiamo. Ciao Fabbro. Vabbè, ma il divertimento finisce allora. Certo. Buon proseguimento. Buon proseguimento, cheat. In cerca di salute. Io vado in carnevale. Sì, perché secondo questo Rod Corbin, praticamente la ciurma del pirata Crane vaga ancora per i mari, e una volta che avrà ritrovato il suo capitano, finalmente potrà tornare a razziare come dei morti per tutto il mare. Grandi linee. Però magari voi riuscirete a sfuggire all'ira di Crane. Cioè, alla fine, lui questo medaglione magari lo cercherà, magari no. Però dovesse voi incontrarlo... Grazie mille. Diciamo che vi permetterà di salvarvi. No, perché spezza la maledizione, secondo lui. Mm. La maledizione... Vabbè, io non ci sono. Tu non ci sei, Giulio, bravo. Ben detto. Non sai com'è il cadavere di Sceo, quindi... Bene. Ora direi che possiamo tornare a riposarci. Esatto. Per recuperare. Long rest. Arrivano nella caverna altri pescatori, tutti vi ringraziano moltissimo per quello che avete fatto. Vi propongono di pagarvi con del pesce fresco e cozze, buoni. I miei strumenti? I tuoi strumenti però hanno detto che ormai li hanno usati per fare delle reti da pesca. No, sì, scherzo, te le ridanno. E no, però vi sono molto grati e dicono: ricorderemo sempre i vostri nomi. Quali sono i vostri nomi? Cabe è l'unico importante. Ah, Cabe, il grande Cabe Regwine. Solo lui poteva salvarti, in effetti. Solo lui. Solo quello che faceva immersione avanti e indietro. Per... solo Cabe Regwine, no. Perché Cabe Regwine c'è, cioè, di ricordare solo il suo nome. Bravo. La banda di Cabe. No, vabbè, ricorderemo tutti. Ricorderemo Cabe Regwine e quelli che lo aiutarono. Seguendo però le sue indicazioni. E i suoi sgherri. No, vi ringraziano molto e, cioè, tutto quello che possono non ve lo offrono, solo che loro sono poveri, possono offrire del pesce. Il banchetto andrà più che bene. E vi offrono, appunto, potete prendervi del pesce fresco. Tenete i primogeniti. Basta che ce lo cucinino, ce lo diano. Siamo mangiati bene. Quelli rimasti. No, vabbè, direi che possiamo fare una bella festa di paese per celebrare l'uccisione. Guarda, chiedete i secondi geniti. Dei pesciazzi e... a scalare finché non trovate fregaci di pesce e di molluschi fino a stare male, esatto. Lo prendo in modo letterale. State male, tirate su costituzione, scherzo. Va bene, tornate al porto di Aldrichvel. Qui il giorno dopo rimaniamo lì a dormire. No, direi che potete, cioè vi riportano con la barca al porto già subito. Anche perché il giorno dopo voi ripartite. Ok. Cioè, come volete, se volete potete chiedere l'ospitalità lì, se volete dormire in questo villaggio. Ora partiamo il giorno dopo. La mattina. Uguale. Cioè, loro se volete vi riportano subito ad Aldrichfeld. Se poi voi volete chiedere, potete fare quello che volete. Se torniamo indietro dovremo pagare una locanda. Beh, andiamo sulla nave. Se ti pieghi, tutto pagato. Cioè, stiamo iniziando a cercare. Faccio notare. No, va bene, però magari qua dormiamo più comodamente, non so. Come sono loro giacimenti? Cioè, sicuramente, sicuramente dormite più comodi alla locanda. Hai la cabina. Però loro un posto per voi per dormire sicuramente ve lo trovano. No, va bene, torniamo indietro, bisogno di un vero letto. E va bene. Al porto di Aldrichfell, tutti voi salite al quarto livello. Anche Giulio. Della nave. Cecchi, non avete visto, non serviva combattere per salire. Non so, non fregare gli dèi. Deludendo di illusione, perché ci sono solo io che sto seguendo la diretta. Vabbè, salti via tutto. Yak ha preso per il culo i nomi che ho dato e quindi se n'è andato. Ha adempito la sua. Allora. Adesso uno di voi, buona anima, mi darà tutte le informazioni da scrivere. Devo prendere la media il tirare? Tira! La media di cosa? Del dado vita. Vita? Mostracelo, mostracelo in telecamera. Minchia, non è comodo, spero. No! Userò ancora il mio vecchio di 8. Beh, basta che pieghi la telecamera. Io ho fatto 7. Non ci credo. Va bene, 7. Sì, no, non è vero. No, 10 vai un bel faccelo vedere. È un 1. Un 6. 6, va bene. 6 anch'io. Fa vedere. 6. Mannaggia, gli ha fatto un posto. 20 per gatta. Bravo, Iac. Quindi ti prendi la metà. Che è 6. 5, 10. Penso 6. Di 10 e 6. Visto che il di 8 e 5 sarebbe un bello se fosse 5 per i 10. Per il paladino la media è... Luca Lazzarini, Luca Lazzarini. Ma perché? Cosa? Questo è il Iacco Romano. Luca Lazzarini. Quindi abbiamo il level up. Sì, potete salire tutti di livello. E poi rincontrate Giulio. Che non ha solito dire. Sì, è stato il primo. Dico, ciechi e sordi! Così, esatto, è il mio nuovo saluto. Vabbè, io aumento wisdom, allora metto 2 in livello. Che cazzo devo fare? Livello 4. Fate pure. Non vi sale improvvisamente più simpatico. Ah, sì, Katta, un'altra cosa che tu sai. Sono più saggio. Una cosa importante, tu sai. Importante. Una cosa, sì, sembra importante. Così. Il vessillo di Crane. Tu questo te lo ricordi? Grazie. Oppure potrei fartelo tirare per vedere se te lo ricordi. Vai, tiramelo. Me lo tira. Bravo, te lo ricordi. Il vestito. Ma è un meno 6. Il vestito di Crane era un teschio dorato. Cioè, il classico simbolo dei pirati, però dorato perché aveva talmente tanto di quell'oro che era. Domanda che era prima. Arian. Fammi vedere un attimo il teschio che abbiamo trovato ieri. Come funziona la cosa per i punti che metteva lui o scegliere il talento? Al talismano. Quali sono i talenti? Scusa, Katta, cosa? Quelli che ha messo adesso lui, c'era la possibilità di prenderne uno invece di due e scegliere il talento? No, puoi o scegliere il talento o mettere due o mettere uno a due. Esatto. Ok, il talento hai due punti, la lista talenti la trovi sul manuale del giocatore che puoi avere qua. Beh, prendo... Pagina 1896, okay. Non ho la più pari idea. Fit 150, capitolo 8. No? Grazie. No, in realtà 165 per precisione. Aumenta per caso il profilo? Il prossimo livello. Quindi sì. E, vi si avvicina il teschio dorato al talismano? Succede qualcosa? Si avvicina il teschio dorato al talismano. Allora, il talismano continua a pulsare, in realtà. il teschio lo avvicini e no, ti sembra che non faccia, non abbia nessuna reazione. Dai, non ti... no, ridammelo. Va bene, abbi rispetto per i morti. Va bene, i morti sono morti ormai. Ma allora non interessa più. Molto bene. I morti potrebbero sempre tornare. Hai ragione, è il mio compito rimandarli indietro. Tornare in maniera in cui potrebbero tornare, no? Cioè, nel senso. Cioè, non l'aberrazione non morta. Capisco cosa vuoi dire. Ah, ma io prendo anche più uno di cose. Ma è molto probabile che se qualcuno è morto in primo luogo era perché era caro al master. E quindi potrebbe essere la maglietta per Sceo quella. Muore alla prima sessione chi è caro al master. Devo scegliere un cantrip e un incantesimo secondo. Molto bene. Questo silenzio, cari telespettatori, è perché la gente sta salendo di livello. Il momento topico di ogni sessione. Beh, in realtà non dovrebbe essere difficile per voi salire. No, devo solo prendere un cantino. In realtà sono belli, cioè dentro, li avevo mica letti. Sì, i talenti sono belli. Anche perché giustificano il fatto che tu non prenda due punti. Però, sono del quarto. Devo scegliere carisma più mezzo bello. Hand down. Di 2 più 2, 4. Io posso lanciare un incantesimo più di secondo livello, ma quanti ne conosco? Tu cosa hai fatto, Cat? Hai preso talenti e ho messo più due forze. So che ne vado anch'io su quello, però sono veramente belli. Tina. Ok. Ricordatemi, iniziative classe armatura cambiano con destrezza. Destrezza. Iniziativa destrezza base, classe armatura era 10 più livello armatura. La base te la dà l'armatura, okay. E poi ci sono la destrezza. Se non è un'armatura media, non è un ok. Quindi dovrebbe essere semplicemente un più uno su entrambe. Le robe del Proficiency non cambiano nulla adesso. Aia, cioè adesso hai tagliato il Proficiency dal guido. A me? Sì. Cosa ha fatto? Chi è che sparisce, Benz? Ma chi sparisce? Chi è che sparisce? Otto incantesimi. Non a me. Cambia. Giulio. Bonus d'attacco base. Anche al prossimo livello. Ora che giochiamo, la gente sparisce. Ha scritto Giulio. Allora, rega. Mi pare di aver messo tutto a posto. Questo può essere utile. Protection from evil and good. Quando la maggioranza c'è. Chi è? Ma si chiama il capitano, se non mi ricordo. Tarren. No, il Crane. Criptocrane. Mi dai la con la K, un attimo? Sì, crane. Sì, sai, che a me mancano le cose nella stampata. La scheda. Ah, la scheda. Quando è finito? Quando ci sono. Ok. Vedi i modificatori. Non lo so. Sì, ci sono. Allora. Molto bene. Vai, io quando volete. Vai, con le mani quando volete. Allora, e... molto bene. Parte Salla, gli altri come sono messi? Posto, sto solo aggiornando quale cosa. Devo prendere incantesimo. Io ci sono. Ok. Al porto di Aldrichville, state appunto questa notte. Volete fare qualcosa di particolare? A riposare. No, io insisto. Okay. Che ho la lista dei tizi che ci hanno incastrato. Cioè, ho dei problemi in tizi. Mm-hmm. E per lista intendo testa, e per testa intendo l'isca. Vera testa. E in questo caso dovresti immagino interagire tra di voi. Questo caso cambia il prossimo, giusto? Se non... Però adesso hai alzato. Ah no, hai preso. No, cosa hai fatto? Io ho destrezza, ho messo su. Quindi. Anche quello cambia. Dato che adesso è in +4, +4, più 2. Allora, okay. Giusto per. Anche quello allora cambia. Riempire il tempo. Va bene, ci siamo. Ci siete? Ci sono qua come l'altra sera dei mercanti. Questa è la mappa, vi ricordo che voi siete qua in questo momento a quest'isola qua. La prossima tappa è questa, è l'ultima volta che sarete di fatto però è l'ultima volta che siete sul territorio vero e proprio della Saradovia, mm-hmm. nel senso che dopo sarete su, prima in un paese straniero e poi sulle colonie che appartengono formalmente alla Saradovia, però ovviamente poi sono controllati. Si paga sempre in moneta d'oro. Anche da sommare a colpire. Sull'altro sì, si paga con monete d'oro. Sono comunque accettate perché è un porto più o meno. Per i danni solo la carta. Cioè, ci sono tante civiltà che passano di là. Sì, ovviamente la Ribeca ha la sua moneta, ma le fenici d'oro che avete voi vanno comunque bene. Oh, ma ne siamo fenici. Sì. A parte l'Asa che purtroppo scende al secondo livello. E muore. Io direi di cercare magari qualche mercante per comprare con la roba che abbiamo nella cassa comune, dell'equipaggiamento da viaggio, non so, delle razioni, magari una tenda per dormire. Nell'armatura migliore, armi d'argento. Quella costa troppo, quella l'ho già presa. E io no, se, ci sono? Se voi volete fare shopping è il momento giusto. Sì, il porto successivo è più grande, ma puoi cercare anche qua una tenda sicuramente. Per curiosità, quanto mi costerebbe uno stocco d'argento? L'argento cos'è? 100 monete d'oro in più, no? Come pure? Sì. 50, 100? Prezzo normale più 100. Ok, il prezzo normale di uno stocco... Se dai via quello che hai, chiaramente, costa 100 monete. Che è il rapier, mm-hmm. giusto? Sì. Che è 25, quindi 125 costa uno stocco normale. Se devi il tuo, 125? Però costa la metà, giusto? 125 è cosa? Uno oro. Stocco d'argento. Se sì, tu lo dai via, però costa la metà, giusto? A mercato. Quindi è, sarebbe, possono dartelo per 110 monete d'oro. E il tuo quando stocco? Abbiamo? Qua in cassa. Beh, dividiamoci tutto, così poi ognuno fa le sue spese. Ok. Ci abbiamo da dividerci ancora quello che abbiamo trovato nella cassa di Tarren, in cui ci sono circa, sono tra argento, ma io ce l'ho 110 monete d'oro, quindi intanto io uso le mie per prendere il coso d'argento. Dai via il tuo stocco anche nel 110. Sì, faccio la stessa cosa. Sempre a me serve quello. Sì. Va bene, sempre 110 è il tuo stocco. Prendo con primo incantesimo di primo livello Identify per identificare l'oggetto. Cosa fa? Un rituale, io scelgo un oggetto che tocco e se è magico identifico le proprietà che ha. Tipo la scuola? Tutte le proprietà, cosa fa? Okay. Salla. Tu hai già letto le cose per questo? Usarlo, se ha dei requisiti. Altre caratteristiche, sto coso che abbiamo preso, o solo per colpire creature? No, è per se ci sono degli incantesimi che hanno effetto, quante cariche gli rimangono, se che ne so, un esempio. Sì, ok. Io ti devo prendere le magiche è un po' dura. Ti devo prendere mentre setto con la creatura frezze, anche. Imparo incantesimi. Devo prendere anche delle frecce, non me ne sono rimaste molte. Le frecce quanto costano? Sono qua crossbow, no, longbow, shortbow. Però vabbè. Mentre di secondo livello prendo prayer of healing. Ok. Sling è un... ma cos'è Sling? È la fiamma. Guarda dove sono le... non so, c'è... l'altro. C'è lo shortbow, poi c'è Sling. C'è ammunition, ma non... c'è il dardo. Blowgun, net, crossbow. Guarda nella descrizione ammunition. Cavolo, quello di costava, quello di costava, non c'è lì. Silver the weapon, sempre qua, di 100 CP in più. Weapon properties, finestra, heavy light, range, special throne, laser improvised. Hai un prezzo forfettario. Sì, fai una media di quelli che trovi. Perché non c'è? Dovrebbe esserci. Banalas. Tanto abbiamo un sacco di soldi, come dice il master. Un dardo sono 5 copper. 5 copper. No, copper sono i rame. Quindi per esempio una una cosa da 20 era, giusto? Sì. Una d'argento. E no, dammene. Ah, una, guarda, sono munizioni. Quindi sono dopo nel Venturing D. 100 RAM sono uno. No. Arrows, tu hai preso, perfetto. Una di gold, una moneta d'oro per 20. Per 20? Va bene. Prendo 20, dai, basta. Tu hai l'arco, giusto? Sì. Sì. Vediamo la tenda. La tenda è 2 person, 2 monete d'oro. 2 monete d'oro? Sì, 20 libbre forse, 20 pesa, eh. Quindi ne prendiamo 2. Vabbè, tanto non possiamo mai dormire tutti insieme. Vergogna! Sì, sì. Quindi sono 4 monete d'oro. Se vuoi 2 tende, 4 monete d'oro. Ok, li prenderò da nella nave di Adene. Dobbiamo prendere dei vestiti più pesanti? Okay. Anche no? Yeah. Sì, perfetto. Vestiti più pesanti? No, no, ma non si balla. Sì. Visto che è freddo. Clothes. No, non è fasulla. No, bravo. Traveler. No, aspetta. Clothes, common, costume, fine, travelers. Farei questi, direi. Uno sono sì, due monete. Dovrebbero essere qualche minuto. Come si chiamano? Forse aspetta, li tolgo, prendo. Mettiti vestito pesante, vestiti pesanti, sì, sì, in questo caso. Okay. Ma perché quello è 1, 2, 3, 4. C'è anche Shiro. Sì, c'è questo anche Shiro, quindi sono 10 monete d'oro. Sì? No, Shiro non li prendiamo, lui ha la pelle del monaco. Sì, sì. 10 monete d'oro. Quindi vestiti pesanti. Volete la coperta? Penso non ci sono quelle tende. Tutto, non c'è tutto il kit. Una coperta. Ma noi siamo un anno, possiamo. Sì. Metà coperta. Ah, esatto. Bene. Dai, Yak, ci sentiamo allora. Ciao ciao. E una coperta sono 5 monete d'argento. Quindi 5 sono per monete d'oro. Sì. Mi arriva questa chiamata dal numero che non conosco. È il numero di casa e sì. Lurido, io non faccio chiamare, non ho chiamati, non ho rispondo uno che ride. Pronto, chi è? Non ho che il cellulare, strutturare. Ciao Ian. Però è stato anche questa no. Però chi mangia fuori mai lo capirò, però stasera Beth canta. Quindi quante monete abbiamo? E io vado adesso a strutturare. No, adesso queste cose. Beh, facciamo mia, sto presto a strutturare. Poi quello che rimane. Sì. Non sono costretto a strutturare. Completo nuovo da distrutturare. Le coperte, vogliamo comprarci delle pozioni di cura? Ah, vogliamo giocare? Che tra un'ora me ne vado? Eh sì, quando volete giochiamo. Sfigato, tra un'ora. Cosa vuoi comprare? Delle pozioni di cura. Devi comprare anche al prossimo, così, qua c'è uno Healing, una costa 50 monete d'oro. È la Madonna. Però qua ne hanno solo... Vabbè, ma io ho tipo 25 incantesimi di cura. E se muori chi ti cura? C'era anch'io le cure. E se morite entrambi? Cioè se moriamo entrambi il party è morto comunque. No, io scappo, non faccio come c'è. In questo porto però ne sono rimaste solo 3. Io non le prenderei. Costano troppo. Allora, a posto così. Ci sia io te? Sia Prayer of Healing che... Ah, non ce l'ho scritto. Possiamo salpare. Va bene. Vabbè, che interazione con Giulio c'è, non c'è? Ridacci il testo. Siamo a sera. Sì. Sì. Interagire. E quanto manca da dividere? Cosa? Mancheranno una 160... 170 di monete d'oro. Oro? Ok, mie. Mie. Vabbè. Non a testa, in totale. Ah, vabbè, dividilo. No, vabbè, lascia lì. Ah, ok, lui non le vuole. Ci pensiamo dopo, cosa succede? Non voglio adesso. Non lo so. Ah, tu hai guardato il teschio, c'è avvicinato il medaglione. Sì, non è successo niente. Cos'è quel medaglione? Ce l'ha dato uno dei vecchi che abbiamo salvato dai pescatori. Dice che è appartenuto al tremendo pirata. Tremendo. Il tremendo. Posso vederlo? Crane, il tremendo. Prego. Ray Crane, il tremendo. Ha una luce. Se volete aprire la birra, prendo il medaglione e lancio i denti. Nel gioco qua? Anche identifai. Maledizioni le becchi? No. Con la magia. Un Giulio viene maledetto. Mi dispiace. Volevi, mica lo uso. Però lo spiaccico su show. Ah, ok, no, non posso farlo perché mi serve una perla del valore di 100 monete d'oro. Non riesci a lanciare. Che non posso sostituire con il focus. Vendo biglietti, basta. Che yak. Non sto scherzando, è scritto qua. Ma sul nostro coso? No. Commenti, adesso tutti arrivano. Io invece vendo un biglietto. Metti che tu hai. È diventato. Esatto, diventato. Ma, forse che l'avesse venduto. Magari c'è gente che li compra. Ho venduto la tua anima. Non sei riuscito a venderlo. C'è comunque gente che scrive. Io l'ho venduto. C'è scritto che c'è qualcuno che lo scambia per un biglietto di Vasco. Giulio. Se vuoi potrei scambiarlo per due biglietti di Vasco, che a quel punto potrei scambiare per quattro biglietti, quelli di Vasco li vendi più facilmente, che potrei scambiare per otto biglietti. Ma faccio una prova di religione. Vendere i biglietti, la mia prova di religione deve essere connesso alle religioni, però io ci provo. 13. In effetti se non è connesso potrei non fartela fare, basta. Esatto. Quindi non te, diciamo, la faccio fare, non è connesso alla religione. Non è correlato a nessuna religione. Come il teschio, cioè per, almeno per te. È un medaglione. L'unica cosa un po' strana è il fatto che questa luce della pietra sembra un minimo fare un po' di luce come fioca. Uh-huh. Però è effettivamente non ti sembra correlata a nessuna divinità o cose del genere. Vabbè. Andiamo. Credo al medaglione. Grazie. Teschio tieni tu, però. Sì, teschio tieni. Bene. Poi. Quindi che dobbiamo decidere di fare? Partire. No, con quelli che hanno pesciato nella vasca dell'otaria. Lo sappiamo che è stato. Sì. Può esserne certo. Sì. Cioè, una pergamena con dei nomi. Puniscine uno per educarne 100. Posso leggerlo? No, sei cieco, non ricordi. No, scemo e cieco. A lui non l'ho ancora mai detto. Sordo. Chi li ha scritti? Io. Ok. Io. Allora, non sono il miglior detective del mondo, ma anche se questo costituisce una prova. Perché ho parlato. Tu no, mi immagino che ci può essere scritto su questa perché è tipo quello là, quello vicino a quello là, quello con le basette, quello con i capelli rossi. Avevo fatto 20 ad indagare, mi hai detto che sì, io avevo qualificato. Sì, qualche nome l'avrò. Non in però, teoria, non so, sì. Jack Phil, allora in teoria sì. Però a lato pratico tu tipo i nomi non te ne frega un cazzo, quindi poi ci sta che tu abbia scritto quello con i capelli rossi, quello con le basette, quello che sembra uno scemo, quello che sembra scemo numero due, quello, quello con lo scemo che però è scemo anche quello lui. Che ha quattro denti, okay. No, però sì, vai, quello ossuto puoi identificarlo, sì, sì, non ho indagato. Questi sono il risultato dell'indagine. E in che modo hai svolto l'indagine? Ho chiesto in giro e ho minacciato di morte qualcuno. Grazie, anche questo non mi sembra un indizio. No, aspettate, no. Nell'epoca in cui siamo, la minaccia di morte e la tortura sono perfettamente valide. Quindi... Beh, tu non l'avevi detto però che minacciavi di morte, hai detto che indagavi. Sì, ho detto indagavi. Che ho solo detto indago e tiro. Allora sono indagato. Tu hai indagato, tipo vedendo su qualcuno. Cioè, magari. Cioè, ho offerto davvero. Non mi sembra che tu abbia fatto un intimidation. Sei un ottimo segugio, complimenti. Potrei tornarmi utile. Cosa c'è? Forse perché non ti valo il fatto. Ho la vista e l'udito. Quindi fuffi. E alta. Forse perché le tue mani bruciano. Che cosa pensavi di fare con questa lista? Boh, sparlare con voi e vedere cosa fare. Cioè, la mia idea è sacrificarli. Sì. Tu. C'è un bel... frangiando. C'è uno Jacopo romano che poi si deve giocare con noi, in effetti. E noi non sono con dei petroli. Cioè... Beh, immaginate se giocasse con noi e gli chiedessi di stamparsi la scheda e non avrei più paio di come fare. Beh, in genere questo tipo di dispute si risolve in maniera molto semplice. Con sì. La morte? Sì. Basta dichiarare un duello a chi ha offeso il tuo onore e la cosa va risolta. Siamo sacrificati tutti, non me ne chiede. E la cosa va risolta strettamente sulla terraferma perché è vietato fare duelli sulla nave. Ok. Oppure possiamo vedere dove stanno e io posso vedere che sono leggi di cat. No, ma sono d'accordo, la nave potrebbe essere danneggiata in effetti. Ora si è risolta la terraferma. Sì, affondiamo! Appunto. Quindi se proprio vuoi dichiarare, risolvere questa disputa con attenzione, sei libero di farlo. Finché saremo sulla terraferma. Vi ricordo che il prossimo porto dove andrete. Affondiamo! Vi ricordo che il prossimo porto dove andrete non è sotto la giurisdizione della Saradonia. Che peccato! Vabbè, non che. Non sulla nave capitano. Esatto, conta di più la giurisdizione del capitano. Ma sulla nave, sai, le cose capitano. Il vento, cioè. Non che io sappia comandare i venti, per carità. Però può capitare. Che cose? Che una folata di vento butti giù un'acqua o un fulmine durante una tempesta colpisca, le fatalità capitano, è molto frequente, anzi, ma se a maggior ragione eviterei il più possibile le fatalità, diciamo, meno casuali, perché ogni paio di braccia sulla nave serve per farla andare avanti. Beh, e nessuno... Un paio di braccia senza il corpo. Esatto. Giusto? Quindi adesso che non siamo sulla nave, quel paio di braccia non serve più. Tu sai che sei caro il mio amico Harry. Un paio di braccia senza il corpo sono ottime. Vedi, lui afferra solo da lui. Non è cieco. O meglio, solo da un occhio. Allora andiamo da... Lui è quello. Quello che sembra il cieco e sordo una morena e i suoi amici. E sfidiamoli a singolare attenzione. Vabbè, se dobbiamo più sfidarli a singolare attenzione. Le dispute si risolvono così, non conosco altri metodi. un massacro ingiustificato. Esatto. Questa mi giunge nuova, ma non mi sembra molto onorevole. Ai miei tempi dici? Lo facevamo. Tu che dici, caro Cabe? Risolve così. Io sono in cabina se siamo sulla nave. Siamo sulla terraferma. In cabina. Oh, che testone triste. Io dico che... Facciamo un long rest. No. Secondo me dovremmo avere prove molto... Cioè, se abbiamo le prove della colpevolezza, allora poi voi siete liberi di... Il master si sta annoiando. Il master si sta annoiando. No, no, no, no, sto aspettando di vedere la prova della colpevolezza. Cioè, no, no, no. Mi è stato detto, sono sicuro, ho indagato. E come sei sicuro della tua fonte? Cioè, non c'è pericolo che... ho più fonti. Ti proporrò questa cosa. Cioè, a meno che non siano messi tutti d'accordo, però. La mia unica remora è che. In caso di sacrificio agli dei sono sempre ben accetti. Anche se sono innocenti. Anzi, meglio sono innocenti. È che dobbiamo ancora arrivare a Libecca. E per quanto siano. Quindi arriviamo e poi sterminiamo la barca. Ok, va bene. Quante persone più o meno ho identificato? Tu? Sì. Ma forse una decina. Vabbè, una decina di persone, quanta gente c'è sulla nave? Beh, avevo detto tipo... Sono un di marinai, 100. Un centinaio, sono il 10% della forza lavoro. 10%? No, alcuni sono coloni, altri sono marinai, di quelli che ha identificato Giulio. Però è una stima un po' generale. Sembra un gruppo molto eterogeneo. Cioè, nel senso, tu l'hai ricavata più o meno da informazioni di altri. Però è un po' così, insomma. Cioè, potrebbe essere di più. Ok, possiamo punirne qui. Solo alcuni per dare un messaggio. Non vorrei che poi la cosa ci ritorcesse contro, nel senso che questo messaggio sarà semplicemente loro morti in maniera... Beh, a questo punto il messaggio di Giulio non ci sarebbe bisogno di consegnare nessun messaggio se fossero tutti morti. E più che altro farei delle indagini più approfondite e aspetterei di arrivare al prossimo. Oppure, visto che ci hanno puniti ormai, prendiamoci la soddisfazione, facciamo la pepina alla vasca. E due! Vabbè, visto che si è formato questo gruppo, potrebbe anche essere un'idea rifare la pepina loro. Visto che si è formato questo gruppo qua, mettiamola ai voti. Cioè, tra chi ha subito la cosa, non credo che Cabe. Vale, il voto di Cabe vale almeno 20. 6. Il mio parere è di accertarci meglio della loro colpevolezza e risolvere la cosa. La democrazia è sopravvalutata, come ben sai. Ma allora, è più altro questo tu. Infatti ho detto il mio voto vale 20. No, beh, infatti dobbiamo ancora votare. Il parere è questo, poi voi. A me non interessa indagare ulteriormente, però a sto punto puniamoli quando siamo arrivati. Così al massimo scappiamo e via. Vabbè, puniremo quando siamo arrivati a questo punto. Mi piego a... Ma quando siete arrivati alle colonie o ai Libecca, al prossimo porto? Io colonio voto. Cioè, il prossimo porto è, da quello che tu sai, Katta, per esempio, è un po' più grande rispetto a dove. Quindi ci possono essere più incidenti. No, ma anche più forza lavoro con cui sostituire eventuali. Ah, magari posso aspettare fino al prossimo porto. Va bene, vediamo che. Ma non garantisco che non succedano incidenti, no, non a tutti, ma qualche incidente casualmente. Purtroppo una percentuale di rischio c'è in ogni viaggio, non si sa, ma si sa in quanti si parte, non si sa in quanti si torna. Saggio però. Però sì, è vero, questa è l'isola di Aldric, tra l'altro, non di Erric, se non sbaglio. Ti consiglierei, ho sbagliato finora, però avevo scritto giusto nel ricerco. Sì. Grande. Ti consiglierei comunque di attendere il più possibile, perché la vendetta è un piatto che va servito. Perfetto, il prossimo porto. Dove avete trovato quel medaglione? L'ha consegnato il caro signor Corbin, a cui abbiamo salvato la parte della famiglia, ma per il resto ormai quelli del villaggio. Un villaggio di pescatori, uno dei più importanti del villaggio. Ha salito da dei saresti potuto venire dei pesciatti. Sarebbe stato mi avrebbe fatto piacere. Ho salito da dei naga, ma che non si chiamano naga, altrimenti la Blizzard fa causa. Merro. Ma naga c'è comunque, mi sa, tra i giocatori. Sono uguali. Sono uguali. Sono tipo dei serpenti. Esatto, è un muso diverso. Sono uguali. Sono dei, sì, dei mezzi anfibi. Giulio, tu bene i piedi, nel frattempo, mentre eri, non eri con loro, perché nessuno mi caga? Ha indagato. Cosa hai detto, Lars? Niente. Allora vedi che abbiamo fatto bene. L'istinto, vale. Giulio, mentre loro erano via, tu hai volevi, forse secondo me, cercare un po' di informazioni sulla forza che ti ha interdetto il passaggio. Tirami su un investigation. Religio. Investigation. Non sarò un investigatore. A meno, cioè, tu devi cercare. Vuoi cercare informazioni in realtà, per cui puoi scegliermelo. Dimmelo tu come lo vuoi fare. Vuoi cercare qualcuno che sappia di queste cose, questo porto. Dovrebbe essere investigation, però no, puoi dirmelo in modo diverso se vuoi. No, perché... Intimidisco. Dimmelo. Che cos'è investigation? Intelligenza. Investigation, sì, perché tu hai la scheda mal. Sì. Anche io sono mal. 5. Non sei riuscito a trovare nessuno che sapesse di questo. Hai girato un po' in giro, ma non hai trovato nessuno che ti potesse spiegare. Va bene. Quindi sei un po' frustrato da questo punto. Va bene. Avete altro da fare? Vendetta! Non direi. Provo a, a cercare una bambina. Ma scusate, ma l'hanno tolta la bambina. Ah, ci sono siamo spostati. In un'altra isola. Sì, scusami, mi sono spostato. Per cui dovresti prendere una nave. Prendo una nave. Ma se invece io cercassi informazioni tra gli altri membri dell'equipaggio per sapere se qualcuno ha visto qualcosa di qualcosa? Di che cosa? Di che cosa? Del fattaccio che... Devo dare. Eravamo passati avanti a questo discorso, però. Come vuoi. No, però visto che siamo lì, gente ubriaca. Sì, se vuoi. Come vuoi. Vuoi fare un'investigation? Sì. Vai. Cazzo, ho un misero più uno. Sei. Sei. Vedi gente ubriaca. Ci dicono, ok, ma sono i tuoi amici che hanno pisciato dalla cazzo di Otaria. Cioè, con che gente vai in giro? Pensavo fosse una persona rispettabile. No, piano, non sono amici. Cioè, ok, no, vabbè, in realtà, dicevo lui, dice, no, in realtà, secondo me, comunque è gente che... Cioè, alla fine ha avuto le palle di pisciare nella vasca, cioè ci sta, tu dovevi avere il nostro rispetto. Gli altri dicono, ah, sì, è vero, è vero. È vero, no? Quindi, visto che tutti sono convinti di questo, io allora continuo a rimarcare il fatto che sono stati coraggiosi a fare questo gesto. Sì, sì, in realtà sì, cioè alla fine il capitano si è incazzato, però come gag ci stava, cioè alla fine... infatti. Cioè, anzi, sono dei grandi. Sì, sì, ma voglio dire, cioè, se mai vista una nave che ha una cazzo di foca a bordo, dai, ma stiamo scherzando. Però quando lo dicono si guardano se c'è il capitano in giro, poi vedono che non c'è, dicono foco di merda, povera bestia. Oh, raga, non so se ho peggiorato la situazione, però come siete famosi. Grazie, Gabe. Va bene, altro? Boh, no. Partiamo. No. Vi togliete tutti una moneta d'argento per cibo. Tolgo la cassa comune. Ah no, aspetta, però fate anche alloggio. Okay. Giusto. Cassa comune, sì. No, credo che non so, forse Cabe torna alla nave. No, sto con loro, non sai mai che. Toglietevi. Pisciano in mezzo al locale. Toglietevi a testa 5 monete d'argento per tutta la serata. Per 5, 25. Sì. E togli tu cattolo o togli dalla cassa comune? No, no, fa pagare lui. Anche perché non ho soldi. Ah, prendiamo. Facciamo scorta di razione di cibo. No. Qui o al prossimo porto? Prossimo. Possiamo farlo esatto al prossimo. Va bene. Tanto siamo pagati, però. No. Ricordiamoci di farlo. No, sì, poi di fame. Vabbè, sclavosini. Vabbè, avete soldi in effetti. Mangeremo un tardi. Va bene. La mattina seguente salpate dal porto di Aldrichvel. Vi lasciate dietro di voi i vessilli dei gabbiani della casata Flynn e vi preparate a un nuovo viaggio che vi porterà al porto di Narcan, e Nealibeca. Tutto sembra più o meno in ordine all'inizio del viaggio, ma le cose cambiano dopo un paio di giorni di viaggio, quando una notte cala su di voi una nebbia praticamente impenetrabile. Ah, una cosa, a parte tutto, nel giorno precedente, al tramonto, questo Giulio tu forse, no, te lo ricordi perché l'hai sentito la registrazione, rivedete una nave che sembra poi scomparire a un certo punto. C'è di nuovo sta cosa qua e c'è molta agitazione per quella cosa lì. Perché non si riesce a capire cosa sia. Riesco a fare 2T2 o sono così stupido? 4. Grazie. 4. Scatta. Persino un pirata come te può farci. Di certo la cosa, alla luce di quello che, guarda, è, che ti, sai, ti insegno come si che fa. Sai tu, ma non Giulio. Due. Un pochino ti inquieta. La cosa un pochino ti inquieta. Guarda il medaglione. Il medaglione fa sempre una luce intermittente rossastra. È sempre qua. È il faro. Sembrerebbe forse potrebbe essere un pochino più forte, però magari sei tu che la vuoi vedere più forte, chi può dirlo? O hai paura che sia più forte, non riesci a capire bene. Faccio luce sull'albero della nave. Ah, quando c'è la nebbia, dici? Sì. Si dice faccio luce su Ema. È l'albero del maestro quello, no? Questa era quasi carina. E fai luce sull'albero della nave per vedere se si vede un po' meglio. Allora, intanto molta gente rimane tipo spaventata da questo. Dice: che cazzo è quella luce? Porca troia, oh mio Dio! Cioè, tipo, quello che è sull'albero maestro cade. Che no, sta per cadere, però riesce a tenersi all'ultimo e fa: aiuto, aiutatemi! C'è un momento tipo di farlo. Dici, che cazzo è quella luce? Che cazzo è? Oh mio Dio! State calmi! Oh mio Dio! il capitano dove? Calmi! State calmi! Quindi scusa, qualcuno... qualcuno forse ha usato della fottuta magia qui a bordo? Dice il capitano. Che è quello? Però... quello stesso capisciato. E incrocia lo sguardo... È vietato, pensavo. Il tuo sguardo. Perché è vietato, non lo sapevo. Queste stregonerie te le puoi tenere per te. Volevo cercare di e non mandare sul panico il mio equipaggio. La magia porta sfortuna in mare, tutti lo sanno. Va a pulire il ponte. Chiedo scusa, mio errore. Sbatto la lancia e sparisce. Sbatto. La cosa curiosa è che la luce non sembrava aver migliorato più di tanto la situazione, c'è proprio una nebbia densissima. Cioè sì, era fatto ovviamente un alone e si era vista, però non è che avesse fatto più di tanto, perché comunque nella nebbia un pochino fa tipo specchio. So. Potremmo provare a pregare gli dèi ad alzare i venti, ma... La nebbia è proprio così, però c'è molta tensione sull'equipaggio. In effetti abbiamo poche alternative. Ad un certo punto tu vuoi dire qualcosa, Katta? Sì, volevo rincuorare i cuori dei marinai con un discorso rincuorante del tipo di quella volta che mi sono perso nella nebbia sulla cassa del morto. Quella volta in cui mi sono perso le nebbie, abbandonato su un'isola deserta, ho cavalcato un narvalo e mi perdo. Io Disney 5 l'ho di nuovo dopo Star Wars. Un narvalo? Vabbè, Star Wars giochiamo un gioco edito da loro, cioè li abbiamo pagati. Una splendida giornata di sole, ma io ho tenuto salde le mie convinzioni e sono andato dritto, e in men che non si dicesse ne sono uscito. Va bene, a parte alcuni congiuntivi, tira su l'altro. Che cazzo vuoi? E tira su un carisma, una prova di carisma. Boom, 15. 15. Più? Riesci a rincuorare, molti dicono, ah, cavolo. Dice, sì, dai, alla fine è solo una nebbia, cioè ne usciremo prima o poi, non c'è da avere paura. Non c'è, appena tutti sembrano molto, molti di quelli che a cui hai parlato, almeno lì, sembrano molto più tranquilli su questo, cioè effettivamente li hai rincuorati, e ti prendi anche un inspiration. E però, quello che succede è che la nebbia effettivamente comincia a diradarsi. Visto, vero, l'ho detto. Ma sopra di voi una luna rossa, proprio di una luce proprio rossa fortissima, come se fosse un rubino, un vermiglioso rubino, va su di voi e la nebbia va a diradarsi. Attenti che non vi rubino le cose. Quello sull'albero maestro che prima si era salvato dalla luce di Giulio grida: nave! Nave a poppa! E tutti si voltano a guardare, tutti si vanno a guardare, e dietro di voi sta arrivando una nave. Dalle vele lo vedete più o meno, perché la luce della luna è abbastanza intensa, nere e tutte molto squarciate sembrerebbero. Come fai ad andare così veloce con quelle vele squarciate? Eppure va veloce. E inizia un inseguimento. Il capitano fa delle mosse. Tu, Catta, lo noti, fa delle mosse molto ardite. Sembra proprio molto. Cioè, vedi che è proprio abile il capitano. Ma questa nave dietro sembra essere posseduta da qualcosa. Perché va a una velocità assurda. Cioè, il capitano proprio comincia a fare delle mosse per proprio tipo evitarla. Ma a un certo punto questa nave si affianca a voi. E voi li vedete. Su questa nave ci sono una serie di bruttissimi ceffi. Ma la cosa veramente brutta di questi ceffi è che non hanno delle vere e proprie facce, bensì sembrano tutti degli scheletri. E una volta andata contro di voi, cominciano a salire sulla nave. E a questo punto mi tirate un'iniziativa. Ah, così, diretto, porca troia. Eh sì. 21. Di 16. Allora, Giulio. Giulio quanto hai fatto? 16. Giulio 16. Catta 2. Nonostante il mio meno 1. Catta 2. Las? 21. Las 21. E Salla? 18. 18, tutti i punteggi molto alti. Tu. Vuol dire che ci sta. Come funziona turno web? Allora, arrivano gli scheletri. Però prima sta Laz. Che vedi arrivare, vedi praticamente su questa nave stanno arrivando un numero assurdo di scheletri armati di tutto punto. Sembrano dei pirati. Vedete praticamente la nave con il segno pirata ed è un simbolo squarciato, che sembra proprio vecchio, però vi pare proprio un teschio dorato. E straggo l'arma e mi nascondo dietro Giulio. Monta il medaglione, monta il medaglione. Harry Klimpavide lo chiamava. Puoi nascondersi. 24. Va bene. Sta a Salla. Dietro il gatto. Dietro Laz. Laz, tu avrai già vantaggio. No, dipende. Non ha preparato. Dipende. No, se avessi fatto adesso qualcosa, sì. Prossimo turno non lo so. Che comunque loro non sono sorpresi. Esatto. Ci stanno attaccando. Esatto. Allora, lui, tu potevi avere la cosa, non ce l'hai ancora? La cosa di che è... No, ce l'ho, però non direi di evitare di attaccare un'orda di scheletri. Dimmi. Loro sono loro salgono da un lato, sì. No, sul lato della nave. Allora io però mi allontano dalla parte opposta. Ok. E faccio ispirazione bardica su Eric. Sì, perché? Vai Eric, tranciali tutti. Pacca sulla spalla e me ne va. Sta a Giulio. Dove sono loro ancora sulla nave. Ciao. Anzi Giulio, aspetta, scusa un attimo, tira un dado. No, quanto hai? Sì, meno sì. Uno. Vai, tira un dado. 13. E con destrezza cosa? No, sta prima a loro in realtà. E il va bene. Arrivano. So arrivi, arrivano. Quindi allora lui si è spostato. Lui è dietro e l'altro è dietro. Va bene. Ne arrivano 3 addosso a carta. Solo fa la succata, spero. 19. Cazzo. A 19, ma un critico. Ma porca troia. No, Bento, aspetta. Dimmi. Hai preso la l'acqua. Posso fare anche su critico, sì. Che cosa? Cutting words. No, forse no. Anche se su un altro. Sì. Anche se su un altro. Certo. Beh, se vuoi puoi farlo. Gli faccio ehi, medaglione! Chi c'ha il medaglione di voi? Catta. Non io. Allora cosa gli fai il medaglione? Faccio lo stesso medaglione, intanto tengo in mano il robo. E come funziona? Che tira un D6, tira un D6 e lo sottrai al tiro di mezzo. Vai. Però scusa, sei 20? Naturale, in teoria non c'è scritto. Cioè, qua c'è scritto solo quando una creatura attacca e usa la tua reazione per esperire e rolling a bardic inspiration die and subtracting the number rolled from the creature's roll. Vai, tira 1 4 quindi è un 16. Che ti manca? Va bene. Ma scusa, si volta, lui praticamente se non fai critico non lo becchi. Alla fine, perché? Può fare 19. Sì, ah però... no, aspetta, che cazzo dici? Però 20 no, più c'è il loro bonus. Quindi comunque ti becca. Hai fatto 20 di dado? Sì, ho fatto 20 di dado, non ho considerato il loro bonus però, quindi ti becca comunque. Scusa. o più 3, comunque ti beccherebbe anche se sì, 19. Beh, canta più di tanto. Però non vale come critico, penso, o sì. No, di dado va bene. Chi lo sa? Vabbè, facciamo di no. Anche se questo creerà un precedente, purtroppo. Vabbè, va bene. Se decidi sì, non lo uso. No, ci sta. 4 danni a carta. Che diventa uno. Vabbè, allora che cazzo ti lamenti. E ma io ho finito tutto quello che avevo nel primo round. Ne arrivano. Se abbiamo fatto un long rest, no. Come ho fatto? Ah, perché altro sono 2 giorni, quindi anche più di un grado. Ne arrivano 3 su Giulio. Sì. Che lo mancano. Poi, da più lontano, un po' più lontano, 2 sparano su Cabe. Sapevo io. Cabe, la tua classe armatura? Fuoco. 14. 14. Allora, ti becchi con 1, 4 e l'altro 5 danni. Come? 4 e 5 danni, quanta, quindi 9 totali. Quanta vita hai? Altri 2 turni muore, mi sa. Poco. Quantifica. Una trentina. Adesso ne ho 21. Una trentina. Hai preso 9 danni. Sì. Dopo, poi vedete anche che anche Sheo se ne trova un paio addosso. Grazie, Sheo. Però Sheo combatterà poi per sé. Si vede che cioè, lui è più lontano da voi in questo momento, non sapete bene perché. E Il master sta perdendo colpi, non descrive più la scena come all'inizio. Lo vede che vomita, forse perché sa. Sì, ci sta. È un classico. prima si vede con la nebbia praticamente, cioè questa, improvvisamente fermo, tutto fermo, anzi no, le mosse del capitano per evitare. Il buon Sir non è abituato a queste mosse molto tenaci e praticamente non, cioè, si è messo su un angolo a vomitare e quindi è lontano da voi perché vi siete allontanati e non volevate farvi beccare dagli schizzi, però adesso di fatto si trova anche lui in battaglia però lontano da voi dagli schizzi. E sta Giulio. Faccio scusa, vai sulla loro nave, fai Thunder Wave e già la fondi. No, ho pensato di far Shatter. Non funziona. Che peggio. Cosa ha più? Vedo 60 piedi da me, sì. Cioè, non c'è più la nebbia. Sì, sì, sì, adesso è tutto, cioè, è illuminato da questa luce rossa e vabbè, dalle, ovviamente, dai fuochi e le lanterne sulla nave. 60 piedi o sono 18 metri? 30 uomini. Voi siete sul ponte che sono intorno a voi in furia la battaglia. 30 piedi, c'è chi scappa, c'è chi combatte. Sì. Allora, quindi sono 18 metri. Sì. 18 metri di distanza da me, c'è, che ne so, l'albero maestro della loro nave o il timone. 18 metri? 18 metri. Beh, si sono affiancate le navi, sì, in teoria. Sì, se ti muovi ci può stare. Facciamo un tiro di percentuale. 18 metri, boh, non lo so. Cioè, ci potrebbe stare, però non avendo messo una posizione, facciamo una percentuale. Il master è impreparato a queste tattiche. Ma no, beh, ok, nel senso, conto se mi dici 150 metri, allora sì, facciamo 50-50. E vedi, lo vedi? Il risultato l'hai visto? Non, cioè, vedo uno, cioè, non so che cosa hai fatto. Non allora dimmi, perché non sai se... Allora catta, sopra o sotto? Sopra o sotto è entro il 18. Sopra entro il 18. Sopra entro il 18? Allora non sei entro il 18, però muovendoti ci puoi arrivare. Allora, cos'è sta cosa? Mi annoiavo. Cos'è? Bella! Dei disegni. Ah, tra l'altro nell'ultimo articolo che ancora non ho postato su Facebook, Atta, c'è un tuo autoritratto fatto dal Ligno. Cos'è quella senza occhio? Chi è? Quindi se ti muovi ci puoi arrivare a 18 metri. Mi annoiavo. No, ma sono gli scheletri adesso. Sei comunque, cioè puoi beccare comunque una parte della loro nave se vuoi. Però non l'albero maestro, nel caso specifico. Vabbè, allora in mezzo alla nave dove vedo più scheletri. Non vedo che c'è un ammasso di scheletri, non vedo più gente. Mm-hmm. Cioè, allora ti spiego. Sì, fai come vuoi, ovviamente. Qui c'è un combattimento complessivo, ovviamente, che io non posso gestire all'atto pratico. Sì, ma ci saranno ancora scheletri sulla loro nave? No, lo puoi fare se vuoi. Però, nel senso, in linea di massima, ci sarà il vostro combattimento che sarà all'interno del combattimento più grande. Però sicuramente lo puoi fare se vuoi. Cioè, se non arriveranno ovviamente tutti su di voi, cioè molti stanno combattendo in giro, questo voglio dire. Però sì, sì, sì, può, cioè, questo a livello tecnico. Però tu ovviamente puoi, se vuoi, puoi farlo sul coso, anche solo per allontanare la nave, per fargli dei danni, certo. Ma io faccio, diciamo... Cioè, magari puoi affondare, cioè quello che tu vuoi fare è provare tipo affondarle, immagino. Ah, anche se è un po' più complesso. No, vabbè, facciamo che in questo magari faccio... Cioè puoi farlo, ripeto, però nel senso a livello tecnico vi dico che essendo un combattimento molto più vasto forse vi conviene concentrarvi su quelli che avete addosso. Vabbè dai, allora inizio a dire: voi morti siete ciechi perché non avete occhi, siete ciechi e non avete occhi, siete sordi perché non avete orecchie. Questa è la carta, il bozzetto. Wow, magari guarda che lamento. Wow. Okay. Il bozzetto di carta. Perché sono sul... Le vostre membra dovrebbero riposare nelle tombe. Nelle vostre anime. Essere nell'aldilà. E faccio Turn Undead. Oh. Ah, vedi che abbiamo un chierico. Tu lo sapevi. Turn Undead lì distrugge in teoria. No, più avanti avrò questo. Abbiamo un chierico. Cosa fa Turn Undead? Devono fare in tutti gli scheletri entro 30 30 piedi da me. Che sono 9 metri. Sì. Mm-hmm. Devono fare... Beh, direi tutti quelli su di me. Sì. Devono fare un tiro salvezza sul... sul Wisdom, mi pare. CD... CD sarà la stessa incantesima. Quindi 14. 14 sul Wisdom. Sì, sì. In effetti allora va bene, ok, tutti quelli e... che la falliscono per un minuto scappano dalla... scappano via dalla fonte, cioè da me. Hanno il più lontano possibile da me. Vedi che ho fatto bene a nascondermi lì. Ok. E poi finché non... per un minuto, finché non subiscono danni. Quindi dico, non attaccate più i morti che fuggono. Allora, quelli su di te scappano tutti, e anche uno di quelli su Katta. E anche i, quelli che avevano sparato a Cabe, vedi proprio che scappano. E ha un po' di gente attorno a te, si sposta. Grande. Questo ovviamente vale solo per quelli che sono a, sì, nord, sì, linee, amici. Va bene. Questo era Giulio e ora sta Katta, che ne ha due addosso, però. Che sono così. Allora hanno fatto meno di due minuti hanno giocato, giustamente. Ah, yar. Respiro di fuoco così. Esatto. 2 di 6 a voi. Molto bene. Luridi. Come si dice? Scheletro. Sì. Cosa di più dispregiativo. Avanzi di... pirati. Esatto. Letteralmente. Non infesterete mai più queste acque. E gli do una spadata. Dai, 22. Che cos'è il tuo? È il longsword. Slashing. Okay. Però in effetti ho anche una club in mano. Saccoccia, per usare, ma tuttavia per ora hai usato la longsword. Va bene, userò la longsword così ti faccio felice. Beh, è quella che usi di solito, no? Sì. Adesso te non te l'avessi chiesto. Bene, quindi dato che mi hai detto che ho colpito, sì. Cosa hai fatto, scusa? Ho fatto 22 per, sì, colpire. Sì, non te l'avevo detto, ma sì, già che ci sono potrei provarci e metterci dentro anche un incantesimuccio per usare il mio smite divino, se si chiama così. E quindi adesso ti dico che tipo, quanti dadi e di che tipo sono. Quanti dadi? No, perché alcuni sono i danni dell'arma, che giustamente lui ha resistenza, però gli altri dovrebbero essere danni radianti, che invece se li piglia tutti. Cosa, scusa, che hai detto? Perché dopo che io faccio il... se li piglia tutti, come? Esatto. Che cazzo è? Oh, Divine Smite. Gli faccio 2 di 8 in più, più un altro di 8 perché è un morto, e di danno radiante. Quindi i danni complessivi sono? Quindi i danni complessivi sono... su uno questo, tu su uno. Sì, su tutto su uno. Questo è il danno dell'arma, che sono 6 più 4, 10 taglienti. Mm-hmm. Più si becca questi di danno radiante. 15. Ok, muore. Cioè, va a terra, diventa tutte ossa che si spargono. Subite la ira di Quake. Hai fatto il tuo turno? Sì. Ok, sta all'altro. E attacco quell'altro che è su Katta. Sì. E... c'hai vantaggio. Stocco. Perché... sì. Se dici, ritiro. Se devo avere vantaggio, no? Sì, te le insieme, sì, però. Ne ho uno di dado. tengo l'altro comunque, 16. Ho fatto 15, sì, con questo. Puoi usarli. Dammelo già col modificatore, magari, così. Il totale? Sì, era 16. Ah, ok. Sì, sì, il totale. E danni 7. Danni 7. Aspetta. Sono sparato un dado. Quanti dadi hai da forse? Sì, uno. O due, ho salito. Grande catta. Questo non l'ho puntato. Quindi? E 19 totale. È già a livello primo. Anche lui cade a terra e si sparge. Vero, vero, vero. Non l'ho puntato quello. Salla, sta a te. Ho una domanda. Dimmi. E io posso sapere se gli scheletri sono immuni da danno psichico? Fammi un tiro su intelligenza. Intelligenza pura? Conoscenze arcane? Mi ha malissimo. Come? Non sai quello che ha tutte le conoscenze del mondo? Sei. Sì, secondo te. Non ne hai la più pallida idea, ma tentare non nuoce. Cioè, in realtà allora, non c'era proprio quello che vorrei fare. Io non ho addosso nessuno. Sai che gli scheletri sono dei non morti. Qua. Non sono cazzo. Io... Beh, very easy, non sono dei non morti. Almeno non provo slip. Immagini, io faccio... No, beh, non lo sai, non è la tua idea, potrebbe essere sì o no. Non uso qualcuno. In questo momento non avete contro nessuno perché Giulio ha fatto piazza fluida attorno a voi, però vedete altri che stanno sbarcando, quindi può essere che ve ne arrivino addosso altri. Diciamo che se vuoi colpire qualcuno, tu in realtà sei più lontano, adesso che ci penso, da lui. Quanto sei dagli altri? Tipo 9 metri? Tipo meno perché mi muovo, tipo 9 metri. 6 metri, tipo, giusto? 7 metri e mezzo? Sì, 6 metri. Sì, 5 metri. 25 piedi. Direi sì. 7 metri e mezzo sei allora. E sei 7 metri e mezzo da loro, sì. Vedi però che tutto attorno a te ovviamente infuria la battaglia, quindi presumibilmente vi arriverà qualcuno addosso a breve. Voi non siete neanche feriti, non faccio un cazzo. Canta quanti punti feriti hai perso? Uno. Puoi preparare un'azione se vuoi. Mi curo. Ti curo. Va bene, dopo Salla... Oh! Perché a me non va il GPS? Arriva. Devo giocare a Pokémon. Arriva. Allora, un paio. Anzi, facciamo. Due sparano su di Giulio da lontano. Uno, Giulio, ti becca con critico. Con critico, vuoi fare reaction? No. E... sono... No, perché preferisco usare l'incantesimo di cura perché... Sette danni a Giulio. Due sparano su carta. Ah, ci prova, non vorrei dire. La tua classe è 19, giusto? Sì. Uno ti becca. Mm. E ti fa 7 danni anche lui. Io ne ho 18, uno in meno di te. Vieni qua. Dopodiché... ci sono 4. Ok. Ne arrivano 2 su carta addosso. E però non ti beccano. Uno su Giulio. Anzi. Vabbè, ormai ho detto così. Uno su Giulio non ti becca. Uno su Laz, che proprio fallisce malamente. E uno anche su Cabe. Arr. Che ha classe armatura. La motivazione. 14 ti fa 6 danni. Potrebbe andare peggio. E sta a Giulio. Io farò un bel martellozzo da guerra e lo sbatto contro lo scheletro. Danno bludgeoning. 18 colpisce. Un bel colpo. Di 8 più 2. 4 danni. 4 danni. Sì, ok. E va bene. Dopo Giulio sta a Catta, che da due addosso. Mm-mm. Ok. Due addosso. E intorno a quanti altri ce ne sono? Allora, ne hai due su di te, uno su Laz, uno su Cabe, che è un po' più lontano da voi. E cioè tu ne hai a portata fondamentalmente quattro. Due su di te, uno su Laz e uno su Giulio. Poi ce ne sono due un po' più lontani che mi hanno sparato. Okay. Cioè quattro, scusa. Qua, due su, che ha sparato su di te e due ha sparato su Giulio. Però, quindi, e poi c'è il casino attorno. Quindi dai fiancheggiamento a Laz. Ma io sono di fianco a Giulio, quindi siete tutti. O comunque posso muovermi. No, se anche vai... io posso muovermi, ho doppio movimento. Vai pure. Cioè... se va, attacchi quello di Laz che puoi, dai fiancheggiamento. Mm-hmm. Siete tutti di fianco uno a Laz, se non sbaglio. Quindi, okay. Se, no, se attacchi quello di Laz, sì, dai fiancheggiamento. Però ne hai due addosso. Okay. Non so, io ero allora, mentre attacco, tiro fuori la mia mazza. Devi disingaggiare. Io o lui? No. Lui per attaccare, ma attacca solo. Sono di fianco a Giulio. Come siamo disposti? Siete di fianco uno all'altro, mi sa. Cioè, Laz era dietro Giulio. Laz ha attaccato poi uno che era su di te. No, siete... che era... ah sì, che era su di lui. Sì. Quindi siete di fianco. Quindi allora, sì, ce l'hai lì. Secondo me non devi disingaggiare. Va bene, allora tiro fuori la mia mazza e do una mazzata. Interazione con un oggetto. L'altra lasci cadere? No, la rinfoder. Interazione gratuita e con un oggetto. E la rinfoder. Mentre il, per quando faccio l'attacco, l'estrazione è compresa nell'attacco. Va bene, anche se sei un... cioè colpisce estraneo. Va bene. Tipo ninja. Vai. Che è bludgeoning? Esatto. Su quello di samurai. 17. Preso. Però fa solo un di 4, però se lo piglia tutto. 8 danni. 8 danni. Quello su Laz cade a terra. Ah, sono così pacco. Sono degli scheletri. Cioè, allora forza è il numero. Ah, vabbè, ma io ero già lì pronto per fare una roba forte. Laz, sta a te. Ok, attacco uno di quelli di Kat. C'hai uno su di te anche, che ha attaccato appena Kat. Ah, è morto, giusto? Sì, uno su di te. Beh, belletto. E aspetta, il turno prima tutti avevano attaccato, vero? Di questi appena arrivati? Sì. C'era... ok, perfetto. Due sono, sì, sono lontani, però sono due succa. Sì, tutti erano attaccati. 23. No, no, no, quella cosa dell'assassinato è solo per chi non ha ancora iniziato. Ma il turno. Tu hai... no, giusto. La no, cosa dell'assassinato, sì, con giusto, vantaggio critico solo su chi non, no, ha ancora iniziato. No, e sei nascosto, sì, giusto. Vai. 23. 23. 23 è preso. Coscratta. Allora... 12 con lo stocco, sì, 21 cade danni a terra e si sparge per il coso. E... sarà Laz, sta... sì, è vero, che fare qualcos'altro, sì. Mi cos'ho intorno? C'è qualche... no, dico, c'è qualche tipo barile, cose vicino all'albero. Catta. Sì, vabbè, dai, volevo evitare di rifare la gag. Sì, hai vicino a te l'albero maestro, uno degli alberi della nave, per cui puoi salirci sopra, puoi provare a salirci sopra. Se no, un po' più lontano ci sono dei barili. Se ci arrivo mi provo a nascondere là. Movimento più nascondersi, va bene. 13 più 7, 20 totale. Va bene. E... Game. Come? Game. Sì. Sta a Cade. E faccio Dissonant Whisper su quello davanti a me. Ok. Cosa devo fare? Tiro salvezza su Wisdom. Da fare qua? 14. Passa. Prende 9 danni dimezzati. 9 danni dimezzati. Di 4. Ok. Quindi 4. Sono danni psichici. Ok. E li prende. E va bene. Ora sta a loro. Allora, se non sbaglio, ne è rimasto uno su Katta e uno su di te e uno su Cabe. Quello su Cabe non colpisce Cabe. Quello su Giulio colpisce Giulio e gli fa 6 danni. Quello su Katta non colpisce Katta. Però poi succede una cosa brutta. Cioè, non bellissima. Esplodono i barili. No. Dalle ossa sparse attorno a te, Katta, due scheletri si ricompongono e ridendo, pensavate. Ah, l'altra cosa curiosa è che questi scheletri parlano. E, pensavi che fosse così facile eliminarci? E attaccano Katta. Questo è il medaglione che stavi cercando. Katta. C'è un 20 su Katta. Cazzo, che culo hai con i dadi tu? Altro però lo colpì. Vero su di me. 7. Come ti chiami? 11 danni. Quanti punti di danni? Adesso segniamo. No, totale e poi. 41. Totali. Ora mi ha fatto 11 danni, meno 3, 8. Quindi vado a 28. Va bene. E. Scusa. Avevi già preso dei danni? Sì. Sta a Giulio. Sta a Giulio. Riattacco. Ci sbevo davanti a me. Ma faccio 7. Non lo prendi. E sta a Katta. Che ne ha tra addosso, se non sbaglio. Giusto? Questa sì. È una maledizione. Sì, bravo. Togliti l'inspiration. Questa Vorrei togliermelo per capire qual è la maledizione. E ok. Oddio, sì, va bene. Fregato. E però la risposta non te la posso dare adesso. Plot point. Va bene? È un sogno. Lo puoi usare, però non ti posso dare adesso. Tu quello che sai adesso è che una volta tirati giù, loro dopo poco ritornano su. Quindi anche tipo quelli che probabilmente hai tirato giù torneranno su. E come si fa a farli rimanere giù? Perché non... Al momento non te lo posso dire, ma te lo dirò appena lo capirai. Va bene? Grazie. Butta le ossa in mare. Grazie al calcio. Però puoi fare comunque il tuo turno. Butta le ossa in mare. Posso provare a spingerne uno giù di fuori il bordo? Di quelle per terra. Se ne incinerisci. Butta le ossa in mare. Allora, in questo momento... usa una Warhammer. Sì, tu dici siete... dovreste essere più o meno vicini. Beh, io ci sono arrivato ai barili che erano sul bordo, quindi sì. No, non sono sul bordo i barili. Ah, no, ok. No, beh, non avrebbe senso che i barili fossero sul bordo. Beh, di solito non li accostano al bordo, così appena se li devi legare, se li devi legare, dove li leghi? Agli alberi o le cose. Eh sì, ma comunque non hai bordi, sicuramente. E... allora, non sei attaccato al bordo, quindi in realtà lo shove è di 10 piedi. 10 piedi sono 3 metri. Va bene, dai, facciamo che lo puoi far arrivare al bordo praticamente. E poi magari fa un tiro salvezza sui riflessi. Dopo lo spingo io in caso. Una volta che... cioè, non lo butti giù, però puoi spingerlo contro il bordo. Va bene. Prova a spingerlo, prova di atletica. E sì, contrapposta. 18. Minico. Passi, lo spingi di 3 metri. Che lo scheletro che mi placca. Lo scheletro arriva sul bordo, perde l'equilibrio. Ah, meglio, arriva sul bordo. Praticamente le sue ginocchia si staccano, le sue gambe rimangono a bordo, ma il resto dello scheletro cade giù. Però le gambe attaccano come lo scheletro. Le gambe sono rimaste lì. Sembrerebbe. Quindi questo era uno di quelli su di te, giusto? Ok, dei nuovi. Sì, vabbè. Oh no, ha scoperto il nostro punto debole. Le ginocchia. Questa è la carta Salasio. Grida alla ciurma, buttateli fuori bordo o torneranno. Mi riavvicino a lui con lo spostamento e attacco. Ne è rimasto uno o due? Due, direi. Attacco uno dei due. Quanto ha di critico? 19, 20 o 20? 20. 20. Ah, 20. Allora niente, 25. Sì, prendi. Grazie. Che cazzo uso il bardia sull'alfa? Tu tieni sopra il 20. 8, 9, 14 danni. Cade a terra e si sparge. E con l'azione bonus riesco a raccogliere e a buttare giù le ossa che sono per terra. L'interazione gratuita con un oggetto e poi il tuo movimento. Tutte le ossa. Beh, un po'. Quelle della parte superiore. Prende un mucchio. No. Puoi buttare giù un osso, un teschio, se vuoi. Puoi prendere un teschio e buttarlo giù se vuoi. Le due braccia al posto del teschio è meglio. Un braccio, però interagisci con un osso, sono sparsi. Poi magari qualcosa attacca tra di loro. Prendo il teschio. No, prendi come la cassa toracica, magari. Teschio? Teschio butto giù. Va bene. E sta a Cave, Bragwell, okay. L'eroe dei quattro. Brutti idiota, dov'è la tua pelle? Te sei scolata a casa, Vicious Smokey. Devi fare un tiro su saggezza. Non passa. Prendiamo di quattro. Se l'era studiata. Sono tre danni psichici. Sì. E ha svantaggio per provare a colpire di dopo. Ok. Brucia, burn. Verifichiamolo subito. Non ti becca, infatti. Anche se si dice, brutto nanetto, avrò la tua pelle per non solo rifarmi della mia. Non sono. Però non ti prende. E che cazzo gli fanno? Non mi ricordo, ce n'è uno su carta? Uno è rimasto. Giusto. Uno su carta e uno su di me. Uno su di te. Allora, su Giulio non ti prende. No, quanta di casa tua? 16. 18. Su carta invece lo prende. Quanto ha fatto? Beh, puoi tirare per abbassare se vuoi. Non te lo devo dire. Te lo devo dire? No, non te devo dire il risultato. Beh, ti posso dire che ha preso Bardo. Cioè no, mi puoi dire non il bonus, mi devi dire mi sa il numero del dado, aspetta. Ma perché? Allora, cioè, già il fatto che ti dica che ha preso, se, boh, vabbè, vediamo. Sembra strano, però. Mi è scappato. Dice, puoi scegliere di usarla dopo che la creatura ha fatto il tiro, ma prima che il DM ha detto se ha colpito. Quindi dovrei, e anche prima non potevi, in teoria. O prima che toglie il... i danni. E dipende se tu giochi. No, allora leggimelo. Io posso... Leggimelo bene, che sennò finisce sempre che lo. No, non c'è scritto che tu devi dirmelo. No, dimmi, leggimelo comunque bene quando devi dire che lo puoi usare. Io lo devo dire dopo che tu hai fatto il tiro. Ma prima che ti ho detto il risultato? Se giochi a dadi coperti, sì, ma se giochi a dadi scoperti, io so già il tuo risultato. No, io non gioco a dadi scoperti. Cioè, nel senso, io ti devo dire. Cioè, il problema è questo. È da capire se tu me lo devi dire quando io dico tira su catta o quando ti dico colpisce catta. Questo è il dato di fatto. Quindi mi puoi... No, in teoria dice quando tu hai tirato il dado. La prima che determini il risultato. Se colpisce o... No, prima che determini se colpisce o meno. Però il fatto è questo, cioè nel senso quando io tiro i dadi, voi li vedete i dadi che tiro quando io sono il master di solito. Allora, il discorso è questo. Io, tu qua, adesso, da d'ora in poi, se tu lo vuoi usare... mi devi dire prima che io ti dica il risultato. Perché tu giochi a dadi coperti. Sì, ma questa è la regola comunque. Ah, no, non è la regola, è la scelta del master. Io gioco a dadi coperti, ma a parte questo... è previsto dal regolamento, perché ci sono delle... No, ti spiego perché. Perché per esempio quando io gioco con gli altri, io posso sempre vedere... Va benissimo, però ci sono molte parti del regolamento che è previsto che tu dica che una cosa la usi prima di sapere il risultato oppure dopo di aver saputo il risultato, capito? Quindi in realtà è... Io non devo sapere il risultato, devo sapere se hai colpito, cioè non devo... No, no, no, è per questo che io voglio che tu mi legga cosa c'è scritto, per capire perché... Ah, aspetta, no, allora aspetta piano. O tu mi dici l'incantesimo e me lo leggo io. No, no, è una baccata, cioè nel senso, semplicemente tu non devi dirmi niente. Cagami. Sì, sì, no, aspetta, cioè, me lo leggo un attimo perché... Io dovrei dirtelo quando tu tiri, prima che tu mi dici il risultato, ma visto che io sono così abituato a giocare... che il master ti ridà davanti ai giocatori, io davo per scontato che tu li tirassi davanti a loro, non ho neanche notato che essendo da qua tu non li, li tirassi coperti, per cui te lo devo dire prima. Sì, sì, no, ok, aspetta un secondo. Sure, after creature make its roll, but before it determines whether attack roll or ability. Ok, ah, ho capito, cioè, sì, sì, tu vedi quando tu vedi il dado, mi soccorre che tu veda il dado. Ok, è un po' complicato, però sì, linea di massima... Cioè, tu puoi dire ha fatto questo risultato, sì, e però non, no, dire se colpisce o meno. È troppo, è troppo complicato, no, non l'abbiamo mai fatto. No, ma è semplicemente perché io sono talmente abituato a giocare con i dadi, cioè nel senso a giocare ai dadi scoperti con i giocatori, che non ho dato per scontato che lo facessi anche tu, perché non vedendo che cazzo fai lì, non so come. Sì, sì, sì, no, no, io ci ho coperto qua. Ma a parte, ma a parte quello, comunque, sì, ho capito cosa dice il coso. Vai, vai, vai, allora non lo uso. No, beh, tu in realtà lo puoi usare come reazione e lo... no, non lo so, hai tirato, hai già detto che hai colpito, vai, no, no, sì, no, sto pensando come possiamo fare. Ti devo fermare prima. Facciamo così. Dichiari l'attacco. Tu mi dici, quando io dico attacca su, tu mi dici, voglio usarlo. Voglio usarlo. Allora io ti dico un... il numero che ho fatto e no, facciamo così che tu quando lo usi io quando dici io attacco quello io ti interrompo subito e dico aspetta uso l'abilità e tiri anche il mio dado. Ok, va bene, sì, va bene, ok, perfetto. No, ti spiego, cioè non era per una cosa, che io sono talmente abituato a giocare così che sì no, ho capito, va bene, e d'accordo. Quindi non lo usi in questo caso. No, non lo uso. Non lo puoi usare. Vabbè, però puoi usarlo per un'altra cosa. E va bene, quindi abbiamo fatto 6 più 2, 8 danni a Katta. Dopo tutto quello che ci rimette a Katta. Allora, se non sbaglio, 2 turni fa avevate abbattuto una creatura che torna in vita lì davanti a voi. Torna in vita, torna in morte davanti a voi. E quello di cui sono rimaste le gambe bene. No, quello no. Per ora l'hai fatto il turno uno prima, ma due turni questo fa, turno, se non sbaglio, l'asino aveva tirato giù uno, sì. Sì. Che torna su, e lì si vede, bello scoso, Katta, ma no. non lo becca. E va bene, e poi forse ce n'era anche un altro che avevate tirato giù, sì, mi sembra ricordo. Di sì. Quello che ha buttato il teschio, no, no, questo era nuovo. Un altro, secondo me, ne abbiamo ucciso solo tre. Ah, no, uno l'aveva tirato giù anche lui. Sì, è vero, è vero. Davanti a lui? No. Non mi ricordo, no. Però ne avevamo fatti quattro. Sì, quindi ne manca uno. Ne torna su uno lì in mezzo a voi, dove ci sei anche tu, Laz. E io sono sul bordo perché ho buttato il teschio giù. Ah, io avevo capito che lo lanciavi. Ah, vai, no, sul bordo, ho fatto il movimento. Allora sì, vede sì. Giulio e prova a attaccarlo. E forse l'hai visto Giulio, ma ha fatto 20. No, non l'ho visto. Oh, ma quanti ne ha fatti? 4? No, non è 13 danni. Cioè. Vabbè, capito. Succede un'altra cosa. A un certo punto, cioè sul lato, vedete che arrivano questi altri scheletri che trasportano, no? Ah, no? Ma trasportano una bara. E aprono questa bara. Dentro la bara sono dei bari. C'è uno scheletro con tante parti del corpo, un tanto tipo una, cioè un vestito particolare, sono una sorta di ingegneri genetici che no, è uno scheletro, è uno scheletro però con vestito comunque, cioè una parte di vestito stracciato eccetera, però chiaramente un vestito prestigioso, e alcune parti di questo tipo delle costole, una mano eccetera, sono dorate. L'unica cosa che non ha questo scheletro è la testa. E Giulio mi tira un perception. 2 più uno scherzo. Andiamo male. Giulio, non ti accorgi di nulla finché non accade. Dal tuo zaino, a un certo punto, che immagino tu abbia male, scappa la testa. Praticamente si buca, e lo vedi perché ti esce della parte della tua roba. Esce fuori il teschio che si è mangiato una parte del tuo zaino e corre, cioè va, si muove per quanto possa correre un teschio. E poi senti una voce all'orecchio la prossima volta che prendo io il teschio. Tipo facendo sul fino alla bara e si poggia. Così tanto si muove. Beh, sarà tipo 9 metri da è magico. Cazzo, è magico. E si poggia sul corpo, su questo scheletro. Non è che sbaglia punto, si mette su una spalla, sarebbe ridicolo. Che sul bacino prende improvvisamente non vita, ma quello che è. Non vita. Okay. E questo vabbè, ovviamente è una pausa tra virgolette scenica. Fa ha! Ray Crane finalmente è tornato. E tutti gli scheletri esultano. Sì, il capitano è tornato. Torneremo a razzare anche da morti. E sta a Giulio. No. Sì, insomma, devi uccidere lo scheletro. Faccio il prayer of feeling. Tranquillo, cazzo. Vabbè. Tu. Chi è che ha dei punti ferita che mancano? Kappa. Tu no? Ok, tutti gli altri a parte l'AS recuperano 10 più... Aspettate. 14 punti ferita. Ah, sti cazzi. È più utile di te. Vabbè, hai detto chi è per un motivo. Puoi farlo, sì, senza subire, non devi fare concentrazione o niente. Ma è solo vocale, può avere anche tutte le mani coperte. Ai. Aspetta, hai dimenticato una cosa. È come quella merda di Age of Empire. Casting time. No, cazzo, 10 minuti. 10 minuti, regola importante è che gli incantesimi li conoscete voi. Magari prossimamente mi date una lista e io li guardo. Cioè, 10 minuti devi stare a castarlo? Sì. Ah. Puoi cambiare la tua. Ah, fanculo, quindi non mi curi, insomma. No. Vabbè, ce ne saranno tanti altri di incantesimi. Sì, ma non di massa. Natale. Thunderwave! Anche quello da dare. Ma no, che dopo che incambi incantesimi. Vabbè, curati tu, lo curo sì, io. Sì, no, mi curo io. Comunque, adesso magari una delle prossime volte chi usa gli incantesimi, siccome voi sapete il numero di incantesimi, incantesimi che usate, vero? Non cambiano ogni volta. Te ne volevo scrivere. Magari me li mandate. Sì. La mia scheda ce l'ho. Sì, lo so, però magari me li scrivete lo stesso su WhatsApp e così poi me li guardo con calma. Vedi che bravo che sono che io non ho fatto una cosa con gli incantesimi. 4 più 4 recupero 8 danni. Comunque io non ho niente, ho Vicious Mockery, sonno, cura. Sì, ma magari me li scrivi lo stesso su WhatsApp questi giorni, adesso con calma, adesso quando mi ricordo ve lo dico e me li scrivete. Recupero 8 danni, basta. Va bene. Mi disingaggio. Disingaggio. Posso? O è un'azione, disingaggio. È un'azione. Allora niente, recupero 8 danni, basta. E va bene, sta catta. Catta. Tu capisci che ti ricordi che il tizio ti ha detto di consegnare che se gli si ridà il medaglione, la maledizione dovrebbe finire. Un medaglione, uccidiamole tutte. Questo può voler dire tante cose, però sicuramente potrebbe essere una cosa positiva. Perché ho speso un punto Inspiration e quindi io so che è una cosa. Tu sai che sicuramente è una cosa positiva. Dagli il medaglione. Non sai. Per lui. No, per te. Può essere la chiave. Poi non sai bene non sei sicuro su cosa voglio dire spezzare la maledizione in tutti i sensi, cioè non sai se lo elimini proprio e basta, però sicuramente potrebbe essere un buon punto di partenza per sconfiggere questa gente, perché se no sembra, soprattutto adesso che gli è arrivato il capitano fra di loro, sembra... abbiamo scoperto che dividendoli in pezzi smembrandoli. Va bene, allora quando sta a me a te, grido... sta adesso a te sei dopo me. Giulio. Ottimo. Allora in maniera molto scenica innalzo il medaglione e grido parle. Chi c'ha il medaglione? Catta? Sì. Parle. Ok. Dopo sta Laz e Assalla. Non ti hanno neanche cagato. No, no, no, beh, nel senso perché a livello di turno sta a loro. No, noi siamo i primi del nuovo, lui è l'ultimo del nuovo primo. Sì, no, lui è l'ultimo del turno, rega, cazzo. Esatto. Ma quella merda potrà rispondere qualcosa. Però a livello di turno sta prima voi. Quindi se volete fare qualcosa... potete possiamo fare... provare a uccidere il capito? Sì. Sì. Vai. Curo casta, secondo livello. Mi cura. Vabbè. Prima è Lance, prima di tutti. Quindi se Lance vuole fare qualcosa... No, dai, non la facciamo la cazzata. Attacco solo uno scheletro... che ho lì a portata e riavvicinandomi sì. A Catta. Tu sei... ah, tu sei andato sul bordo. Sì, torno indietro. Ok. 11. Puoi aggiungere un 16. 11 non la becchi. 16? Ah. Devo aggiungere... 12. Ho detto puoi 12 non la becchi. Vabbè, non puoi più raggiungere 26. Comunque Catta ti curo di 13 più 4 punti ferita. 17? Sì. Perfetto, grazie. Parle. Salla, quindi ha curato tutto, avete fatto. Tocca loro. Ok. E, aspetta, Giulio... Ah no, no, no, niente, ho detto una cazzata. Può farmi un attacco di opportunità il maiale che ho quindi, okay. Perché mi devo spostare per toccare carta. Ancora con svantaggio? No. No, non ho altro svantaggio. Di classe armatura? 14 sempre. Vuoi usare la tua cosa? No. Volendo cosa. Allora ti becca. Aid. Al posto di... 3 danni. Vabbè, sì. Comunque ti guarisco lo stesso. Grazie. E Giulio tira il dado. Quanti danni ha fatto? Assalla. Ok. Prende la parola Crane e dice: ah, ladro schifoso, ridammi ciò che hai torto. Anch'io ero un ladro un tempo, ma un ladro pirata, non uno schifo come sei tu. Catta che ha visto il medaglione che adesso, il cui, adesso la pietra è super rossa, è veramente veramente rossa. Si vergogna tanto? Sì. Anche tu potresti vergognarti. Questo è il momento, buttiamoli in mare. Dico, richiama i tuoi uomini e ti sarà consegnato. Fa, beh, oppure potrai venire fin là e sbudellarti e riprendermelo. E tutti cominciano a ridere. Ho dichiarato il parlè. Conosci meglio di me le regole del codice. Il codice! Il codice! Tutti ridono praticamente. Forse il codice potrà essere vivo, valido per i vivi, ma noi... risata, non lo siamo più da ormai molto tempo. E anche quando eravamo in vita... l'unico codice che conosco è quello del bottino. E tu hai qualcosa che mi appartiene. E presto tornerà ad appartenermi. E avanza verso di te. È stato bravo il capovillaggio. Però puoi dire ancora qualcosa se vuoi. E tirarmi un... vuoi dirmi cosa gli dici? Gli dico... diciamo che il coltello da parte del manico non penso di avercelo io, però io ho un pugnale solo. Esatto. dico fai un altro passo e lo spezzerò. Non puoi spezzarlo. E il mio amico Fabbro qui può. E anche se lo buttassi in fondo al mare, beh, sai com'è. Ehi, potrei recuperarlo. Potresti, però mi sembri, mi stai simpatico. Mi stai simpatico con quella, con quell'armatura così curiosa. Perché no? Ridammelo e forse ti potrai unire alla mia ciurma. Perché no? Morti in vendetto. il chierico obvious. No, era detto così. Magari lui non ci arrivava. No. Cioè, dice, ah, sì, che bello. 8 di intelligenza, ti ricordo. Vedi? Avrei potuto accettare. Ti ringrazio della proposta. Morti, ricordo. Ma se proprio lo vuoi, vienitelo a prendere. Ti ripeto il suggerimento, del cosa suona comunque nella tua testa. Però sì, puoi dirmi. Del tipo? Invidare il... Infatti hai detto vienitelo a prendere. Lui? Nel senso che glielo voglio dare. Sì, lui viene a prendersi. E prendere, cioè tipo per fare la mossa del... No, viene a prenderselo nel senso che ti attacca. È già lì? No, quando beh, si avvicina, 9 metri, beh, la testa l'ha fatta. La mia intenzione era preparare la mossa per quando si avvicina, glielo lancio addosso. Giù per prenderlo. Ah, ok. No, dico la strada, la testa l'ha fatta. E poi vedo cosa succede. Ne approfitto magari. No, due turni per attaccarlo. Va bene, lui viene chiaramente per attaccare. Due turni prima ti è uscito. Cioè, sguai la spada. Il turno prima lui ha fatto, è costretto a. E il turno da adesso sta prenderlo con una mano. Ma io lui lo raccoglie con la sua mano dorata. Sì, ti ha fatto fare quel tiro lì perché penso abbiate fatto. È stata una buona scelta da parte tua. E cos'è che fai? Gliel'ho lanciato in modo che non riuscisse ad attaccarlo. Lui prende il medaglione. Si mette il medaglione. No, si mette il medaglione. E diventa più grosso di 3 taglie. Quando si mette il medaglione. C'è una specie di vento assurdo che si gira attorno a voi, praticamente appare su tutti voi. Nel momento successivo in cui finisce questo vento, praticamente vedete loro che gli scheletri scompaiono e lasciano lo spazio a delle persone in carne ed ossa. Carne ed ossa. E anche di fianco la nave è... Affonda. No, la nave è una nave normale. Diciamo una nave più o meno normale, sempre quella nave. Una nave. Bene, ora è nostro. Ora loro sono vivi, sembrerebbero. Quindi possono morire. Ma questo non gli impedisce di attaccarvi. E Crane, nello specifico, attacca Giulio. Così. Perché sono dietro? Da noi. Ah, perché davanti lui non lo sa. Sono davanti a voi. Attacca Giulio. Così ci sta e dice ma finiamoli tutti, attacca Giulio e lo colpisce. Oh, hai acceso la luce tu? No, fa 1000 danni, dispende di no, ti top. Fa 6 danni, però aspetta, lui in effetti può attaccarti ancora. E ti colpisce di nuovo. E può attaccarti ancora. E ti colpisce di nuovo. Vez, però. Sì, no, che cazzo è Dio? Gli scontri devono equilibrare. 7 e 7. È il suo culo. Sono che morto. Si deve equilibrare. Sei sotto? Sì. Vai. Vai. No, perché se uno non sa equilibrare gli scontri, cazzo. Ah, oh, raga. Cioè, vi lamentate che vi mando quelli. Vi lamentate le cose. Vabbè, si gioca. Vi lamentate sempre. Si lamenta sempre il bardo, non è che. No, non ci lamentiamo sempre. Inizia a diventare un pattern costante. Vabbè, raga, Massimo, se volete, non giochiamo più. Cioè, non è un problema. E gli altri scheletri che sono rimasti. Attaccano. Non sono più scheletri, sono persone. Attaccano Katta. Ah, ma aspetta. una cosa di lore. Le due gambe che erano rimaste contro. Sì, e le due gambe sono due gambe adesso normali, però senza il corpo. Che cura. Uno fa 6 danni a catta. Quindi 3. E boh, sì, c'è quello su Kate, direi. No, in realtà io mi sono staccato da lui. Poi si è spostarsi e venirmi addosso. Sono andato a catta io, ho preso l'attacco di opportunità. Ah, scusami. Sì, lui lui arriva, ma ti missa. E poi, se non sbaglio, ce n'era un altro su Laz, giusto? Non era su di me, però non mi sono nascosto, quindi se vuoi sì. Arriva su Laz e lo manca. E boh, direi che sono questi quattro. Tocca a Giulio. Giulio è a terra. Tira un dado, giusto? 9. Ora sta a Laz. Lui? Io sono sta a catta. Scusa, io sono il primo. Sbagliato. Grosso errore, Crane. Mi dispiace per te, ma ti godrai molto poco la tua nuova carcassa. E lo attacco. Attaccalo. Un attimo, non mi vedo se posso fare una cosa prima. Perché volendo avrei channel action. No, è l'Hunter's Mark. Se mi faccio l'Hunter's Mark, come stai messi come danni? Io ho 37. 9. No, danni subiti. 34. Cioè, punti ferita? 34. Punti ferita 37. Ferita 31. 21. Ok. Ma in realtà sta messi bene a parte Giulio. Sai, se ti fa 7 più 14, 20 danni. Sculato. Hunter's Mark. E mi sono anche curato. Va bene, gli piazzo una croce sulla faccia e se lo colpisco gli faccio più danni, ma prima lo devo colpire. Sì. Vai, 23. Sì, preso. Quindi, già che ci sono, brucio un altro slot ancora. Un bolsillo con un colpo, sta vedendo. Sì. Per fargli anche lo smite, quindi un D8 della spada. Ecco, loro no, niente. Dello smite. La spada non ce l'hai. Ah, sì, ce l'hai. Per lo stesso motivo di prima, sì, sì. Rinfodero. Ah, ok. E sfodero l'altra nell'attacco. Purtroppo non è più non morto, vero? Era quello che volevo chiedere io, poi sono stato zitto. Ora no. Ora no. Peccato. Sarebbe stato bello. Ma gli arrivano comunque. Sarebbe potuto andare meglio. 13 danni. 13 danni? Ok. Totali proprio. Giulio non condivide. Va bene. E sì. Tu com'è? Sta Laz. E raggiungo anch'io catta e attacco. Sì, sei lì con loro, mi sembra. Ce n'è uno addosso e poi ci sono quelli tre su, cioè il capo. Uno addosso che devo disingaggiare o no? No. Okay. Cioè sei lì comunque. Ok. Tu. 19. E sì, una cosa Katta, visto che era il tuo turno, a questo punto pensi che uccidendo Crane tu possa uccidere tutti? Ok, lo dico agli altri. Concentrate il fuoco. Vabbè, ormai non era andato per scontato, sì, perché 19 19 di per sì, colpire. Sì, preso. 9 14 15 danni. Ok. È sommato la destrezza? Sì. Ok, sta mi allontano un po'. E allora, aspetta, devi fare disengage bonus e poi ti puoi muovere, sì. Mi allontano. Ho una domanda. Sì. Canto mi sembra ferito. Sì. Beh, nell'onore. Poco. Nell'onore. perché sono sopportato da un capitano pirata. Mi mancano solo 4 PS dopo quelli che mi hai dato. Ok, allora faccio Dissonant. Beh, Giulio ha ancora 2 turni, stabilizza la carta. Ma non hai 2 turni da fare il tiro. Ho capito perché per rischiare. Esatto. Cioè. Perché vuoi cambiare personaggio in tutto giù? È bello. Poi, non so se lo sai, ma se fai uno conta come ogni 2 puntate si fa ricarica. Non so se scusa. E soprattutto se becca dei danni. Rega, il pubblico vuole nuovi personaggi. Le hanno detto, c'è un sondaggio. Beh, è appena salito di livello. Grazie, Alta. Dissonant Whisper. No, ma io mi fido di quello che dici. Solo l'importante è che lo sappiate voi da spiegarmi. Comunque, deve fare un tiro salvezza su saggezza, difficoltà okay. 14 sempre. Giulio. Lo uso di secondo livello. Lo passa. Se non passava doveva scappare e si pigliava delle gran mazzate dagli altri. Ma non è successo. Anche se non è un non morto. Soprattutto se non è un non morto. Comunque sono... sono 12, 13, 12, 15 danni diviso 2. Quindi 7. Va bene. E direi che ha fatto. Ora sta a loro. Ok. Capitano vede Crane, vede che ha appena ucciso uno e dice: tu mi sembri un ottimo marinaio, per cui ti concederò l'onore di ucciderti. Ma... e va su Katta. Sì, Katta, volevi dire qualcosa? No, niente. La sua logica voglio usare io il primo glielo voglio abbassare. Va bene, fai bene. Tira Katta, no? Il D6 era, no? E non D6, Katta, sì. Fai bene perché il primo era un critico. Porca troia! 4 e meno. 4 e meno, comunque colpito, ma non critico. Sì, e gli altri 2. 6 con 1. No, scusami, 7 con 1 e 5 con l'altro. Quindi 3, 2, 5 danni. Perché rimase tutto, scusa, aiutami. È un talento. Riduzione del danno 3. È un talento che l'armatura pesante nel senso. È tanta roba adesso che hai bassi livelli. Sì, sì, però... e sono già 2 combattimenti che aspetta di fare una cosa la carta perché picchia la gente. No, vabbè, assorbe veramente tanto. Adesso sì. Sì, adesso è primo livello, sì. La cosa brutta però è metà del danno, è che lui un po' a sorpresa tipo sembra andare in fuga, fa un quarto attacco e fa altri 2 attacchi. Action surge puttanella, di cui uno è critico. No, di cui uno però solo colpisce. Madonna. E fa 6 danni a casa. Quindi 3. E ancora male. E... un attimo solo per una cosa. Sì. Cosa simpatica. Sì, va bene. E sta... ah no, sì, gli altri scheletri. 2 su carta. Come prima. Uno colpisce e fa 7 danni. Quanto 25. E poi c'è quello che l'Asa ha abbandonato lì, che vuole colpire Katta ma non lo colpisce, credo. C'ho le gambe. Tu hai 18 però. 19. So che non pentirò quello su di me, cerca di colpirmi. Sì, è lì per che me ne pentirò, ma non ti colpisce. Oddio. Quanti cazzo di critici ha fatto stasera? No, giusto, questo qui non l'ha fatto nessuno. Ne hai fatti 5 in tutti i tiri che hai fatto. Beh, molti ne hanno anche missato. Sì, sì. Va bene. Giulio no. Giulio. Ma in realtà in realtà mi sembra, infatti mi sembra super equilibrato. Beh, raga, se i combattimenti sono difficili... sta a Giulio che tira il dado. Oh, quindi si stabilizza. Sembra lamentarsi. Comunque. Infatti, cioè, ci sta. E va bene. Sta a Katta. No, nel senso, vabbè, ho capito che uno vada giù in un combattimento una volta ci sta. Sì, abbastanza. Ma no, in realtà non è niente di. Anche Sheo è andato giù la trave. Ha Sheo ha fatto una cazzata ed è morto, giustamente, senza offesa. No, lì è stato stupido. Cioè, poi poteva salvarsi lo stesso con un po' meno di sfiga, però ha fatto una cosa. L'altra volta è andato giù. Caso di Giulio, ha sfiga che ha preso dei diventi, però, cioè, prendi la punizione nel mare nei denti, lurida. Bam. Preso. 24. Sì. Hai fatto critico? No, però... sono andato vicino e si becca questo bel di 8 quindi 6 più 4 16 danni in faccia. Sì. E non batto un ciglio. Beh, è ancora in piedi, però sicuramente l'hai ferito parecchio. Ora sta nell'orgoglio. Ah, beh, sta all'asio. Allora, azione in movimento, ritorno in mischia, sì, e attacco sempre. Sono 17 per colpire. Prendi. Allora. Ecco. 5, 9, 14 e 15 danni. E disingaggio. Quanti danni hai fatto? 15. 15. Lo vedete quasi stremato. Sta a e disingaggio, però non mi allontano. Ok, perché non ho più. Numero Giulio di secondo livello. Ok, 5, 11, 15 punti ferita. 15 punti ferita. E Arturo va bene. E ok, sta a lui. Allora, devo pensare. Sì. E ok, Crane ti attacca due volte. Chi? L'ultima è che non passo giù. No, una ti colpisce e ti fa 6 danni. Quindi tre. E poi però disingaggia da te. No, un po'. Non so se l'ha fatta, a meno che non abbia anche. No, non puoi, infatti. Quindi allora ti attacca un'altra volta. Stavi. E ti becca e ti fa 9 danni. E vabbè, poi ci sono gli altri scheletri che sono 3, giusto? Sono non sono più scheletri, gli altri minion sono 4, 3, non ricordo. Sono 3, tutti ti mancano, però da dietro te ne arriva un altro e ti manca anche lui. Poi ce n'è uno su Salla. Ah, beh. Uno su Salla che critta. E 6. E sono 7 danni. Ah, lo tengo bene. Danno il pezzo. E basta, sta. Beh, dammi un colpo di grazia. Giulio a terra, ma vivo. Beh, l'ha curato. Beh, capito, non è che lo rimetti in piedi anche se lo curi. In realtà era attivo già dal turno, da quando ha fatto 20. Cosa? Si è ripreso quando ha fatto 20. Non lo fai 20. Non era il mio turno. Sì, ma... sì, cioè tu il tiro lo fai all'inizio del tuo turno. Ah, si riprende, non vale come doppio quando successo. Quando fai 20 becchi guadagni un punto vita. Ah, non sono il doppio successo. Ah, scusate. Sei stabilizzato e in punto vita. Allora eri full, che cazzo ti ho curato a fare? Beh, comunque Giulio tu sei a terra vivo. 16 al posto che 15, grazie. Comunque Giulio sei a terra vivo. Sì. Ci sto. E si così ci ammazza tutti direi. Ma ci sta, perché magari Crane pensa di essere immortale. Cosa? Che rimanga lì. Quello è un genio. Chi tocca, scusate? Giulio ho appena deciso. Uccidio? Capito. Non so. Troppo facile. No, nel senso che o faccio danni ad aria o faccio danni ad aria. Ma perché hai fatto passare? Perché hai creato un personaggio di questo genere? O tipo lo colpisci con la tua ma in realtà è anche questo, è il tipico personaggio di Giulio che fa male ai suoi compagni. Cos'è? Sarmi ti costa solo metà del movimento. Curiosamente questa cosa avviene anche in Urban Heroes, però non ho capito perché. Possiamo anche dire sul corpo cadavere, allora. Se prendere danni ad aria. No, vabbè. L'unica cosa mi chiedo, se si alza lì in mezzo alla cosa, si prende gli attacchi? No. Io no. A meno che non esca dall'area di qualcuno. Sono tutti su Katta, sì, tranne uno che è su... Sì. Sì. Quindi io mi alzo. E vedi il mucchio lì. Ma poi fuggi. Ho 16 PF. Fai i tuoi conti. Beh, ancora sei pieno. Beh, intanto sono a metà. Sono lì vicino, no? Intanto avete notato che alcuni che vengono uccisi da dei... Non si alzano. Mentre era l'equipaggio, esatto, sono morti. E faccio... Crane non l'ha notato. Crane, se vuole dare a Katta il merito di avergli dato il medaglione. No, no, no. Complimenti, Katta. Congratulazioni. Ah, faccio... Boh, no, niente, l'attacco. Un martellozzo, boh, no. Bene. Violenza. Bene, non colpisco 11. 11 non basta. Catta. Di già. Ma sì. Tutto si riduce a questo, Crane. Hai trovato la tua rovina. Ne invece. Ah, ma no, cavolo. 11. Avevo messo via i dadi. Non so fosse finito. Crane deve essere. Metti i miei dadi, stiamo giocando e metti via la prima sessione. Cioè. No, no. Fatto 11. Stalas. 11, quindi doppio fallo. Può la città. Se la sito io, 16? Sì, preso. Allora, 5, 4, 9, 15, 17 danni. Sì, Crane muore, cade. Quando Crane cade... Torna lo scheletro e ci uccide. Succede questo. Vedete, tipo, i loro corpi praticamente sciogliersi e tornare scheletri. Per ma, si muove. Ma questa volta praticamente vengono sbalzati tutti insieme, si alzano, tornano sulla, vengono riportati sulla, cioè un grande vortice attorno a, vicino di fianco a voi, alla vostra nave, inghiotte praticamente la nave pirata e tutti loro finiscono sulla nave che sprofonda negli abissi. Niente loot, niente tasche d'oro. Tutti sprofondano in questo coso. Sei ancora in tempo per buttarti. L'unica cosa che rimane è il medaglione, la cui pietra adesso non brilla più e ha una crepa, sembra proprio sulla pietra, che rimane ai vostri piedi. E per il resto loro sono scomparsi. Che palle, non ci sono mai loot in queste cose. Guarda. Beh, tanto finora. Non è vero. Migliore. Lancio adesso che ho tempo. Prego. Cosa? Prayer a film. Metti mai. La luna non è più rossa. Tutti si curano di 9 punti ferita. Tutto sembra normale. Come 9? ho fatto 1 più 4. No, sfottere il chierico. Ovviamente la nave... È stato 10 minuti a pregare per 9 punti. La nave... Aspetta, aspetta, uso... Secondo faccio una cura. Vabbè, tu sei full, che cazzo vuoi? Curo 9 punti. Beh, se faccio la gara mi faccio anch'io un'altra cura e mi curo altri... 13 punti ferita. Va bene. Allora, per l'altro adesso sono full. Vabbè. Arriva. Che mangia del cavolo 10 minuti. Neanche un punto 30 minuti. Ma perché ha tirato 4 e 1. La nave. Infatti a dire cioè, guardalo. Non mi trattate male, Giulio. È scappato. Cioè, non sono, no, sono 9 ciascuno di noi. Quindi... Giulio, magari potrà anche non curarvi. Ma questo combattimento non vi ha fatto danni. Non è cosa da poco. E non l'ha fatto. Non è cosa da poco. Arriva da voi il capitano Tarren. È coperto di sangue, ha lottato. Posso andare a fare la pipì? Gli appoggio la mano sulla spalla e lo curo. ti guarda quando gli mette la mano sulla spalla. Anch'io gli appoggio la mano sulla spalla. Non c'è di che. Sì, non c'è di che. Avete combattuto con onore, questo è chiaro. Ma avete anche portato la rovina su di noi. Come no, sapere che sono lui è il Nicolchiero. E gli è uscito dallo zaino. Tu, perché portavi, perché portavate i cimeli di questo, di questa mostruosità che ci ha portato? E lui sta sordo! Non lo so. E Giulio penso che a sto punto ci risponderà alla prossima sessione, se siete d'accordo. Sì, sì. E va bene. Questo era il quarto... Siamo di livello, insomma. No, stai appena già... Sei appena salito. No, no, non mi risulta. Va bene. E... il medaglione invece ve lo potete tenere, può tenere catta forse. Sì, sì, utile. C'è la scelta vostra. Terrò come ricordo. Beh, in realtà probabilmente un suo valore ce l'ha, è una reliquia del cioè, Crane. È un valore effettivo, ho ucciso il leggendario Crane. L'ho ucciso io. Re, il medaglione. È vero. Va bene. E catta, siccome... sei stato un figo in tutto questo. Come so. Riguadagni l'esperation. Cioè, fammi capire chi l'ha tenuto in vita, no? Fammi capire chi ha fatto più danni, no? Esatto. Non so, no, se beh, non è per quello. Per tutta la questione del dialogo sì, col pirata, sì, eccetera. Sì, sì. E va bene. E questo sì, era il quarto episodio di Coloni, Velenere si chiamava. E come avete visto c'è stato uno scontro non a caso ci sono queste cose qua. Oh sì. Non l'avevo pensato, queste sono le V nere. Che V sta per vela. Esatto certo. Salutando il ritorno della Virtus in Serie A dove merita di stare. Vi salutiamo tutte tutti, queste quattro puntate sono state fatte per dire questa cosa. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime sessioni che non so quando saranno e, però forse una prossima settimana qualcosa riusciamo a organizzare e come? Cos'è che c'è? Cosa ho sentito? Faccia? Dipende se lavori o no. Ah? Io? No, io non lavoro. Però fino prima di se un giorno tra lunedì e giovedì possiamo preferirei tipo lunedì. Mm-hmm. Anch'io. Ma se non sia martedì? Allora direi che va bene. Catta lunedì? Lunedì. Tanto Sceo ci paccherà. Mm-hmm. Ah, Sceo anche lui ha combattuto, il personaggio di Sceo Siron anche lui ha combattuto ed è. Però è bello. No, no, 4 anche lui adesso appena ritorna. Sulla scheda c'è scritto altro. Dai, vedi, anche io sono... che rimane indietro di quelli. So a cena la lunedì. Mamma della Miki, lunedì di sera, però dopo la cena di fatto. Mercoledì? No, una volta finito di cenare. Mercoledì va mercoledì? Salla? Aspetta, mercoledì? No, sono libero mercoledì, ma vabbè, anche lunedì volevo. Beh, vabbè. Aspetta. Tanto non penso che... Vabbè. Sì, anche mercoledì va bene. Potrebbe essere mercoledì la prossima sessione. Comunque salutiamo tutti i nostri amici del podcast e di Facebook che ci hanno seguito fin qua, o probabilmente non l'hanno fatto, ma per il podcast ci seguiranno. Nei primi 10 minuti vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Tycoons and Dragons e sì, su RipGDR sul blog ripgdr.wordpress.com sui commenti e sui commenti no scherzo e sul podcast no, che è quello di RipGDR che è il podcast più di fatto più segnalato alle forze dell'ordine. Qualcuno di voi vuole dire qualcosa in chiusura? Bomba fermo. Voglio l'ispirazione. Bomba fermo. Chi non ci guarda si troverà una bomba termobarica a casa. E con questo salutiamo tutta la polizia. Ciao a tutti. Ciao. E devo fermare la registrazione del podcast. E guarda come è rimasta l'immagine. Allora, appena c'è un momento di pausa tecnica, ma salutiamo anche gli amici del podcast. Spero che vi siate divertiti. Spero. spero che non vogliate. Ma no, sappiamo che non ci sarete divertiti come qualcuno, ma come qualcuno. Ma almeno un po', una piccola parte. Se avete problemi, chiamate. Cosa vuol dire? Se avete problemi, chiamate il giustiziere strutturato.